Buonasera a tutti. È stato registrato, cioè, quindi... siamo in diretta, sì. E quindi i follower saranno sempre noi, saremo sempre noi che giochiamo dei nostri rispettivi PC. Un saluto al Saulo del futuro che sta ascoltando in questo momento. Però grazie. Siamo ben chiari, la GIF era spammata a tutti ormai. Allora, io vorrei ringraziare tutti, vorrei fare il ringraziamento per il milione di iscritti al canale. Credo sia doveroso. Prima di... ora sarà qualche prima anno. Di iniziare, cioè, no, perché cioè, io sono convinto che quando la gente lo rivedrà avremo un milione, quindi la gente fa: oh, guarda, abbiamo un milione di iscritti, vedi che ci ringraziano. Dobbiamo incentivare il pubblico a guardarci, no? Cioè, giusto, ma giusto. È lui il padrone del canale, quindi c'è i soldi tutti a me, ma oh, oggi il primo commento, oggi il primo commento. Con quei soldi compriamo tante cose, dadi, manuali, altri dadi e manuali. Va bene, va bene. Allora, questa è la puntata numero i due follower sono andati 4, questa è la puntata numero 4, sicuri? Sì. Di Zio. E la 3 era Lucky Luke. Lucky Luke. Sì, talmente che non c'è, perché la prima abbiamo scoperto i poteri, la seconda abbiamo scoperto la base, cioè c'è offerta la base segreta, no. E la terza abbiamo ammazzato il tipo. No, no, è sbagliato. La prima abbiamo scoperto i poteri. Hanno chiamato l'ambulanza. Esatto, poi abbiamo ammazzato il tipo e poi abbiamo incontrato Luca. E poi no. Siamo andati dagli zombie. Sì, con gli zombie, eccetera. Ok. La stessa puntata, Luca e i zombie. Ok, dove gli zombie? No. Si sta mai in tre... no. No, era Luca... prima puntata poteri e rifugio, seconda puntata Luca, terza Luca puntata con comunque benvenuti a qualsiasi puntata questa sia. E dunque, prima di cominciare, chi mi fa riassuntino? Tiro a caso? 1, 2, 3. Tiravo da 5. Cioè da 10. Ma tanto fatto qualsiasi 9. Cosa esce la fa già, cioè. Gava. Ma che dici? Siete, nella mia fila siete Marco, Gianf, Edo, Jacopo e sotto sei tu. 9 sei tu. Allora, siamo andati in un posto. Siamo andati in un posto. C'era una tizia morta, qualcuno di noi si è avvicinato, mi sembra Edoardo. La tizia non era morta ma era viva, era uno zombie, ci ha attaccato, sono venuti i suoi amichetti, ci hanno un po' picchiato e siamo fuggiti. Fine. Che schifo. Che cazzo di quello che hai detto. Mi spiace. Tu gli devi fare il riassunto. Vabbè, è semplice, guardate la puntata quasi di The Walking Dead e poi la andiamo avanti. Allora, perché deve far sempre dopo Marco? Perché è l'unico che ci mette il cuore nel fare i riassunti. Dopo aver scoperto i nostri poteri sovrumani e dopo una pessima interazione sociale con un individuo della nostra specie, abbiamo avuto un'altra missione dal nostro capo Salla, che ci ha informato che... Capo. Vabbè, ma tutti guardiamo a lui con rispetto e ammirazione, quindi... che ci ha informato che a Monte Donato, sì? Era... Sì. Esatto, Monte Donato, c'erano stati avvenimenti sospetti, gente scomparsa, avvistamenti di mostri, e così siamo andati a investigare. Armati di... nulla praticamente, e questo ci siamo trovati contro. Armati di nulla, ci siamo diretti a Monte Donato, dove siamo stati attratti nella foresta da strani rumori. E effettivamente, come ha detto Gava, abbiamo trovato quello che sembrava essere il cadavere di una ragazza. Io mi sono avvicinato, pentendomene, perché ho scoperto che non era un cadavere, ma era quello che ci è sembrato essere uno zombie, almeno le caratteristiche erano quelle da tutti i migliori film. Una volta era un cadavere. Lo sai che non si dice la parola con la Z, davvero, è razzista. Era un... com'è che li chiamavano? Era un camminatore, quelli. No. Cosa? Mi chiamavano in The Walking Dead in italiano, perché me la ricordo in inglese. Mai visto The Walking Dead. Vabbè. E abbiamo scombattuto con questi zombie, ce la siamo date abbastanza gambe perché non sapevamo bene come affrontare la situazione, ma nel farlo abbiamo scoperto che il nostro compagno Luca, quello del parco, ma un altro Luca che si era unito a noi per l'avventura, anch'egli sembra avere dei poteri come noi. Detto questo, siamo tornati alla base con la coda tra le gambe e per il momento ci stiamo organizzando la serata. Io ero rimasto proprio sul punto di partire per i giardini Margherita, sperando di incontrare il primo Luca, non il secondo, cioè il primo Luca che ha i poteri comunque, ma non il secondo Luca che ha i poteri, quello con i poteri ma non il secondo. Va bene. Giusto per essere chiaro. Ok, mi piacerebbe sapere quanti punti ferita e psiche fatica avete accumulato, partendo da Marco. Io ho attualmente 5 punti psiche, 3 punti fatica e... Aspetta, 5 su? 6. Ok, 5 su 6, quindi 1 psiche. Su 6. Okay. Ho 3 punti fatica. 3 fatica. I miei attuali danni sono 45 danni alla gamba destra e 20 danni al braccio sinistro. Tra l'altro ricordiamo che la gamba destra ha il massimale di 95 perché è il mio punto debole. Jacopo? Io ho punto fatica, 6 punti psiche e... cioè, l'unico danno attualmente è busto, ho 120 punti su 150 e... però non è un danno che ho preso, cioè con dagli zombie. Edo? Allora, io ho 20 di salute su 50 sulla testa, 30 testa, ho 5 punti psiche, ho anche 100 di salute su 150 sul busto, 50 busto, buono, io sto tutta, e 4 punti fatica. Ah, però, jump. 2 punti fatica e 1 di psiche in meno, quindi c'è una 5 di psiche. 5 su 6 e 2 punti fatica e basta. Ok, e l'ultimo, quello che non ha voluto fare il riassunto? Ma io l'ho fatto il riassunto. Allora, ho 2 punti fatica, ho 4 punti psiche, poi la gamba destra ho 70 su 100 e busto 90 su 150. Quindi la gamba destra e 60 busto. I punti esperienza? Io ne ho 10. Mm-hmm. 12 ordine marco. Di prima? Io ne ho 13, mi ero sbagliato prima. 13. Sì. Marco? Io 12. Ah, scusa, 12. Come fai ad averne così tanti jump che gioca così male? Edo. Ti ricordi che ho fatto le cose intelligenti tipo quello Bluetooth? Quella è stata una giornata pro per me, poi è stato delirio. Però Edo? Punto esperienza? Sì. 12 anche io. Ah. E Jacopo? Punto esperienza mi sa non 12 ma tipo 8, basta. Ah, Jacopo è il più nabbo. Dove cazzo Fondi sei il più nabbo? Vabbè, 11. Allora è Gava il più nabbo. Ok, torna tutto. Perché Gava quando c'ha? 10. Vabbè, siete tutti lì, dai. Allora, io ti sento un filino bassino, non è? E io mi alzo il volume. No, adesso sentiamo bene. Io lo sentivo un po' basso. Bla bla bla bla bla. Vai, posto così. Benissimo. Ah, guarda Edo come spanno. Bravo, si può metterci anche il titolo. Il titolo di questa puntata, ed è un po' una citazione, si chiama Fall into the Vortex. Non mi piace. Non a me. Io mi nascondo, sicurezza. Solo una cosa non mi ricordo, Salla, nel gioco era sabato o domenica che siamo andati agli zombie? Nel gioco era... Ovvero era il 18 o il 19? Era il 19. Ok, allora... Quindi ora è il 19 sera. Ah, certo, sì, ok, ho contato male io i giorni. Sì. Quindi dovremmo giocare tutti i giorni per mantenere un ritmo più regolare. Anche perché ormai abbiamo superato, non è più nel futuro ma nel passato. Esatto. Ok, 19 febbraio, sera. Io mi dirigo, come stavo dicendo, ai giardini Marguerite. Ah, Luca era lì, si è preso una bella botta da una, da una lampada e decide di andare a casa. Jacopo è lì e... Jacopo è lì e... cerca sua amata una nuova lampada. E... non lo so, ci penso un attimo. Ok, gli altri erano tornati a casa, mi pare. Io sì, cioè io stavo prima. Io stavo andando ai giardini Margherita. Cioè, tu Marco eri ancora lì dentro, in realtà. Sì, ah okay. Sì. A questo punto esco e mi dirigo anch'io verso casa, quindi attraverso la strada. Ok, e invece Edo e no, Gab... eravamo al Sanctuary. Sì, ma solo voi tre, mi pare. Hai ragione, scusa. Invece Edo e Gava. Noi stavamo cercando di andare in un pronto soccorso per medicarci un po' perché ci eravamo smazzolati. No, cioè, è vero, però stanno morendo. Senti, io a questo punto vado con Marco. Ok. Cioè, lo allora, con cominciamo Marco. Da Marco e Jacopo. Che io vanno intanto a dicevo, Luca. Nel frattempo se era passata più di un'ora dall'attivazione del potere, o comunque se mi sentivo in grado di riattivarlo, sì, volevo, volevo rimettere in sesto la gamba. Io chiedo a Marco, mentre, visto che scendiamo le scale insieme, suppongo. No, dico, ragazzi, Marco è rimasto... Marco è rimasto in centro, tu sei tornato a casa. Ah, no, perché allora cioè tu invece ma sono al Sanctuary? Ma tu quindi ah tu no quindi... però aspetta no aspetta, ci sta che Jump sia rimasto con voi perché gli altri due dovevano curarsi, Jump no. Eh no, io no. Quindi ok, va bene. E io chiedo, ma allora ti serve, vuoi una mano? Casomai vengo lì, mi metto un po' fuori se ti può servire, visto che è buio e te nascosto. Che ti accompagna traduzione? Dici a me, dici va bene, ogni, cioè, ogni supporto è aspettato. No, non lo so, ogni volta che io vengo fate non fai niente, zitto, lo sto dietro quell'albero. Le ringole sono sempre quelle. Per... Allora, però io non ho mai visto qualcuno, però se capita io non posso esibirmi. Faccio un tagliato. Tipo ti fai così? Esatto, ti svelo tutto quanto quello che può diventare un'arma evoluzionistica. Oh not! Ok, quindi allora, Marco, Jacopo e Gianf. Sì. Andate ai giardini Margherita a cercare Luca. Armato del mio super coltello. Allora, arrivate ai giardini e vi dirigete verso più o meno dove era la zona che chiudevamo l'altra scorsa, cioè. Okay. Immagino ci sia un po' di polizia probabilmente nei dintorni. Sì, c'è un po' di polizia e c'è un po' di gente che gironzola intorno, gente curiosa e basta. Io cerco, dico agli altri, mimetizziamoci tra la folla e state in occhio per vedere se c'è Luca. Io comincio a sudare tantissimo, tipo sto proprio innervosito tantissimo, tipo cerco di mettermi la felpa, cioè di coprirmi la faccia così col cappuccio. Okay. Io gli prendo la maglietta, gli sono lo schiaffeggio, gli dico, datti una calmata, John. E invece no, questa era solo nella mia testa. Si nasconde dietro l'albero. Si gira sempre. Ok. No, anche io cerco, come sì, bisogna di nascondermi. La colla. In bella okay. Vista. Fatemi un tiro di destrezza. Wow, si comincia subito. Di tristezza? Io ho fatto ben più ancora di tristezza. Sei. Da quando ne si diventi? Ho sbagliato programma. Da quando ti ho la mangiamo? Aspetta, ma che stiamo facendo? Che devo fare? Che devo tirare? Cos'è, riflessi? Va bene, e fatemi anche un tiro di sociale. Io ho fatto 5 di riflessi e... Allora, vediamo. Quindi giù 3. Crolla. 2. No. Sbagliato. Perché mi ha fatto questo? Devi tirare un di 6 e fare un altro di 6. Quello di 6 sono riuscito a fare un bel 3. Invece... Con l'altro di 6? No, sì. Io c'ho un di 8. Ah, il mio! Perché, scusa, perché io sono parlato? Scusa, ragazzi. No, no, non vale il di 8, devi tirare il di 6. Perché non sto parlando con nessuno, è solo per... Ah, ok. Subito. Andare scusa. Disinvolto. Non volevo parlare. Io ho biattualità e questo mi aiuta. Con sei il sociale. Attenzione. Ok. Allora, come non vedete niente di particolare, o meglio, non c'è più il cadavere. Vabbè. E voi due vi avvicinate un po' troppo, voi due, Jacopo e Marco, e venite allontanati un secondo dalla polizia dicendo non c'è niente da vedere, eccetera, ma niente di eccezionale. E non trovate Luca. Ok. Sto aspettando. Luca no, torna a casa e non vi trova, mi sa. Rodis. Altro sì. Luca. Chiamiamo Rodis. Ok. Edo e Gava dove siete? Allora, noi eravamo andati prima anche attraverso Clio cercando di curarci, poi niente, quando ci siamo riusciti siamo andati al pronto soccorso. Pronto soccorso, boh, non so quale, un pronto soccorso. Sant'Orsola. Sant'Orsola, dai, Sant'Orsola. Ok. Vi viene chiesto come vi siete fatti con le ferite? Perché sono strane, ferite di morso. Adagio. Bravo. Che avete avuto una serata appassionata. Un cane randagio? Sì. Ok, dovremmo fare la profilassi antirabbica. Vabbè. Ok, venite tutti visitati, state al pronto soccorso 6 ore. Figa. Ci sta, anche troppo poco. E poi vedete, e poi inizia effettivamente. Vi arriverà una parcella di 30 euro a testa. Oh, vabbè, dai. Sto. Che bella la 30 euro. Pronto soccorso. Per me i cacciati sono andati. Di solito. Se devi fare qualcosa di particolare. Io vorrei essere curato. Non hai fatto 6 ore di cuore. Potete scaricarlo dalle tasse. No, già che scala e tutto. È vero, sì. Quando fai l'aereo. Sì, in Italia funziona così. Però di fatto li pagherete perché non siete dei poveracci, quindi. Ok. Intanto voi restate lì a Giardini Margherita, immagino. Come? E tu sai bene cosa vuol dire non essere povero? Ok. A Giardini Margherita restate un po' e non trovate Luca. Fino okay. A che ora volete restare? Che ore sono ora? Allora, avete dalle 19 più 6, che è il tempo per cui loro non sono ancora a casa. Direi... A mezzanotte resto, se non vedo arrivare nessuno entro mezzanotte, l'una al massimo, vado via anch'io. Poi sì, gli altri fate come volete. Ok. Ok. È passato un'altra oretta, mi metto a posto anche gli ultimi danni che avevo, perché c'è chi può. Perfetto. Io prendo un... Fammi una prova di fatica, Marco. Ma anche se aspetto un'ora dopo averlo attivato? Se finisce tutti i 6 round, perdi un punto. Ah, no, non mi serve finire tutti i 6 round, sono... Ah, ok. Okay. Mi mancavano 45 in un posto, quindi posso darne 5 di round. Funziona così. E 20 in un altro, quindi... Il tuo potere dura 6 round. Se dura tutta la durata, perdi un punto. Se lo attivi entro un'ora, perdi un altro punto. Lo so. Ok. Ok, non trovate Luca? Aspetta, io prendo un coltellino da Giansson. Mm-hmm. Vado sull'albero dove era appoggiato Luca. Dal lato dove era appoggiato Luca e faccio tipo un segno, un cuore. sì, però è va bene. Scrivo, faccio tipo un cuore con scritto Luca più Sanctuary. Ok, tipo un cuore così. Cioè, la gente lo vede e fa: vabbè, sarà una tizia tipo figlia di hipster, non lo so, e un tizio che si chiama Luca che si ama. Oppure si amano, se lo incontrerai sicuramente su un sito online. Lei, Mickey 87. Tra l'altro, alla, una cosa, se te lo volevo chiedere, ma mi sono un po' scordato, ma tecnicamente la nostra associazione ce l'ha un nome? Sì. No. Zitiros. Non gliel'avete dato voi in gioco? Ma pensavo ce lo glielo dovessi dare tu, sei tu il capo che ha costruito la base segreta, no, pensavo avessi tu. Capo. Lui è il presidente, è diverso. Il leader. No, vabbè, possiamo anche chiamarci Zeros. Vabbè. Perché più che altro, quando gli altri, quando i cattivi si presentano, dicono noi lavoriamo per il professore, e noi andiamo là, noi lavoriamo per Salla, quindi... Salla, non conosce nessuno, Salla. Il professore è famoso. Era per quello, sì, che ci voleva un nome più d'impatto, perché altrimenti che dobbiamo fare un altro arruolamento. Sceglietelo voi. Noi siamo, noi lavoriamo per 00014, che è due volte 007. Vabbè, e non lavoriamo. Vorrei... Jacopo, fammi un tiro. Non lo so. Gli alberi. Fammi un tiro di destrezza. Destrezza? 5. Che cazzo è destrezza? Va bene, e non ti ha visto nessuno mentre fai sto giochino qua. Okay. È riflesso. Sì, riflessi. Vabbè. Sì, sì, hai ragione. Sono molto stanco. Allora. Non ti ha visto nessuno e quindi okay, puoi farlo. A mezzanotte tornate tutti a casa vostra, aspettate qualche ora per veder comparire Edo e Frederick, che sono un po' medicati. Un po'. Allora, il pronto soccorso non vi ha detto niente sulle ferite, a parte che sono medicate, quindi non si dovrebbero infiammare, e che di stare attenti perché dovrebbe funzionare bene il siero che vi hanno dato, ma non si sa mai. Se avete dei sintomi particolari, ripresentatevi. Ok, Luca è andato a dormire. Dove dorme Luca? Sul divano o sul materasso d'aria, penso. Sì. Quale dei due? Divano, dai, divano. Materasso d'aria buca. Luca muore. Troppe domande, adesso Luca sta dicendo. Dici tipo materasso d'aria esplode in una gigantesca... Volete fare altro? Di fiamme. No, io... Cosa facciamo ora, dici? Mm-hmm. Prima di andare a dormire? La partita all'ora. Una racket. Ok. No, io non ho accesso remoto al computer del Sanctuary col cellulare. Se non l'hai fatto prima, io torno a casa e faccio un'ara per sgrassare. Per sgrassare, ok. Hai il, il 10% di possibilità di vincerlo. Conoscendo, quindi che già tirando dalla percentuale, ti prego. Fammi... E quando devo fare? Tipo 91? Meno di 10. Meno di 10. Ah, ok. Da sarebbe allora dato per 0 0 0, no, da 1 a male, ho fatto 10. Dimmi che hai fatto 10, hai vinto, hai preso A, forziere, chiave. No, S avrei preso. ho preso S. Solamente... questo è veramente un gioco di immaginazione. Sì, esatto. Se non ci dovessi credere, ok. 10. Oh, funziona bene, non vuoi? Che cosa? La tua app, bene. Bravissimo. Ragazzo bravo. Ok, il mattino del 20 febbraio vi svegliate. Che è lunedì. Sì. Che è ieri. Tecnicamente, io quel giorno lì, tecnicamente sarei dovuto tornare a Milano. Oh. Potrebbe essere, non lo so, dimmelo tu. Vedremo. No. A che ora? Ma dai, cioè, sono cose più importanti da toccare adesso. Vabbè, dico, convinco stare giù ancora qualche giorno, dai. Quando fai il trend di un po'. Voilà. C'è una partita. Vi svegliate e e... voi, Jacopo, Edo e Frederick, notate una cosa. Che Luca non c'è. Non respira. La cosa strana è che non c'è neanche la sua roba. Vabbè, possiamo Luca chiamarlo non telefono. È mai esistito. Io non stavo lungo perché era solo un appendice delle vostre menti. Dai, lo chiamo al telefono. Ok. E che ore sono? Diciamo le 11. Sono Luca. Se siete andati a letto alle 4, tipo. Beh, sì, sì. Alle 11 Luca Oddis non c'è. Allora, chiami Luca e ti risponde. Pronto? Ciao, Fede. Ehi, dove sei? Sono a casa mia. Ma non stavi da noi a dormire? No. Sono a Roccaraso. Questo è un problema. Ma questo è meta. Non puoi fare... Boh. Adesso tolgo la maschera e c'è Luca sotto. No, in realtà è che abbiamo dormito fino al 21, cioè oggi che è già tornato a casa. No, sono a Roccaraso, ma perché? Ma dove vi avevo detto che venivo lì, no? Mio Dio. Tipo l'altro giorno non eri a Bologna? No. Come no? Quindi hai un fratello gemello. Non dir cazzate. Dai, no, oddio, vi avevo detto che sarei arrivato a Bologna. No, no, no. L'altro giorno eri con noi. Oddio, abbiamo messo di Luca. Sì, verrò un giorno. Poi si fa vedere, ma non è mai esistito. Io nel frattempo sono in bagno a fare i miei bisogni nel caso. Visto che sono loro quattro, io da un'altra parte, allora contribuisco anch'io un po' alla storia. Ma io vedo delle tracce, tipo il divano un po' sfatto. No, altre... no, cioè sì, il divano è un po' sfatto perché non lo rimettete mai a posto. Come ci conosci? No, cioè, sembra che ci abbia dormito Luca, si vedono tipo le lenzuola, le cose. C'è proprio scritto Luca sopra, no? Comunque... Cioè, nel senso, quando ci dorme Luca ci sta tipo il cuscino, le lenzuola, le cose, no? No. Sparito. Tutto dentro la Ma quindi l'altro giorno che hai fatto, se eri giù? L'altro giorno quando? Ieri? Sì. Ma dai, Fede, lo sai, ho giocato a LOL tutto il giorno. Salla, sto vedendo troppo le altre. Non c'è più simile alla realtà, la fantasia. Ma che controllo, la match history. Controllo, avrò fatto 200 normal. Una coppa persa. Salla, basta, un po' fa male. Adesso Luca mi ammazza. No, vabbè, ho studiato un po' e perché poi era domenica, ho giocato un po' a LOL, ho fatto tipo quei 4-5 game e... meglio. Ho giocato come un cane a LOL, ho guardato Doctor Who e basta. Vabbè, c'è qualche problema. C'è qualcosa che non va. Mi sa che qualcuno ci sta facendo uno scherzo. Ma no, voi non lo sapete, però. Io completamente ignaro di tutto questo. Mi stavo preparando per andare a Sanctuary. Ok, ci sta. E raga, abbiamo Jump? Un problema. Io. Gioco a LOL. Voi non so niente. Cioè, io chiamo. Faccio raga oggi. Che facciamo? Cioè, scrivo su. Avremmo fatto un gruppo. Se non l'avete detto, non l'avete fatto. Faccio il gruppo su... con scritto gli eroi non sono eroi. Ma c'è già... Ne voglio fare un altro, dove c'è anche... che mi piace di più. Chi ci metti in questo gruppo? Chi ci metti in questo gruppo? Tutti la community. No, noi ci mettiamo, non ci vogliamo mettere, ci metto te... Ci metto Marco e Fede, okay. Jacopo, okay. E poi i miei. E non lo silenzio, voglio che lo scrivi, che non silenzierò questo gruppo. Ok, fai questo gruppo. Come si chiama, okay, il gruppo? Si chiama? Gli eroi non sono eroi. Gli eroi non sono eroi. Questa poesia. Wow. Sono eroi. Ok, dicevamo Frederick. Scrivo, e oggi Luca, che facciamo? Che te devo dire? Noi l'altro giorno ti abbiamo visto qua a Bologna. Ti stai drogando? Lo probabile. So. Vabbè, aspetta, chiedo un attimo agli altri. Cosa se anche loro... agli altri se sono stato io a Bologna? Se magari sono io a avere ricordi confusi o magari sei tu. Come vuoi, guarda. Vabbè, metto viva voce. Dico agli altri di Luca che sembrerebbe non essere mai stato a Bologna. No, io non sono mai stato a Bologna. Raga, ma chi c'era l'altro giorno allora? Mi sa che o era con qualcun altro, ma guarda, cioè, questa storia di Luca mi sono confondendo le idee. Sembra che non ci sia mai stato nessuno qui. Cioè, sembra... Perché sono qui a Roccaraso. Adesso vi faccio una foto e ve la mando. Va bene. Va bene, metto giù, tic. Va bene. Tu. Dopo qualche minuto vi arriva un messaggio sul gruppo Gli eroi non sono eroi. Mio. Ma mica c'era anche lui. No, detto di Salla il messaggio. Lascialo parlare. Ah. Un messaggio mio. Con scritto: figo, io lavoro, voi cosa fate? Perché avete fatto sto gruppo? Ci sta, io scrivo ci sta. Perché ci sto? Vabbè, ignoro. Vabbè, dopo un po' vi arriva la foto di Otis, di boh, qualcosa che si c'è a Roccaraso, tipico, non lo so, la paella, che cazzo si fa? Natura Eiffel, probabilmente. Sì, esatto. La briscola. Niente. Ok, Marco, intanto tu ti stai incamminando, cioè con un autobus, immagino. Ok, ci vorrà un po'. Io chiamo, scrivo sul gruppo. Se hai visto anche tu il messaggio, Marco? Il tuo messaggio, sì, quello. Sì, anche okay. Quello del gruppo. Scrivo sul gruppo se qualcuno sta avendo dei strani déjà vu sugli ultimi giorni, tipo che... No, quella puntata l'ho già fatta. Tipo il mio messaggio, quello di Jacopo, vengono spediti insieme, sta dicendo io sto andando al Sanctuary e poi dopo... Aspetta, ma... sul gruppo. Poi metto via il telefono subito e non mi accorgo che c'è anche lui che chiede degli strani déjà vu e quindi... Vabbè, io mando una registrazione perché mi scoccio a scrivere. Dobbiamo essere realistici, dai. Nel quale dico, ma ragazzi, ma... No, dico, rispondo a Jacopo, ma dico, avete déjà vu? Sì, io faccio la registrazione tipo di un secondo e mezzo. Cioè tu? Qua è déjà vu? No, mi serve di specificare. Cazzo, ne so, déjà vu. Io dopo secondo che Luca sia qua. Ti ricordi? Non capisco. Cosa sto dicendo? Ah, giusto, però. Allora, se scrivere a se Gianfe non sa nulla della cosa di Luca ed è lui che ha creato il gruppo, potrebbe essere... Perché potrebbe venire in naturale aggiungere anche Luca al gruppo. Ma mi sa che l'ha messo. Ma non l'ha fatto. Sì, sì, sì, c'è, sì. Anche Luca, c'è anche Luca. Ah, ok, perfetto. Ma esatto, cioè, senti, io do tutto per scontato, niente di strano. Scrivi a Salla. Siamo gli eroi, capito? Allora, io scrivo a Salla nel gruppo. Cioè, se sa qualcosa di... Ti scrivi nel gruppo. Cioè, sì. Gli spiego l'accaduto, insomma. Gli scrivo, Luca è a Roccaraso, ma il giorno prima era con noi, ma lui non si ricorda di essere stato con noi. No, Luca ieri era a Coso perché ha giocato con me a LOL. Quindi anche secondo te ieri Luca era a Roccaraso? No, non credo fosse a Roccaraso, perché a Roccaraso ha internet di merda, non lo so, secondo me c'è una era probabilmente. Sì. C'è una spia. Una spia rossa. Il Luca che era con noi chi era? È l'altro Luca. Ma aspetta, io scrivo. Non è che tutti quelli che si chiamano Luca sono uguali. Faccio, raga, potrebbe essere. scrivo, ma di cosa stiamo parlando? Non ho capito. Stiamo parlando di un gol. È per te, è la vita vera, Salla. È... lo so. Non avevo voglia di preparare la sessione, allora ho fatto sta cosa qua così. Per voi, Godis, ieri era a Martin Sicuro, che l'ho anche a Gianfranco e Marco. E io faccio, rinomino il gruppo, le cose non sono cose. Io sono in autobus, quando sono in autobus non guardo mai il cellulare, okay. Quindi per un po' non dopo un po' che riflettete, Marco, arrivi in prossimità del Sanctuary. A quel punto controllo il cellulare, vedo tutta sta roba strana. Vedi tutta sta roba, poi alzi gli occhi e dove c'è il Sanctuary non vedi il Sanctuary. Oh yeah! Io report sicurezza. Cosa c'è al posto del Sanctuary? C'è un negozio di pennelli e pittura. Ah! Ah! Pennelli. Ma dai, entra e chiedi se puoi scendere sotto. Volevo entrare giusto per dare un'occhiata. Per dare una pennellata, diciamo, alla storia. Raga, ho un'idea. L'unico modo per vedere se questo è un sogno è vedere la schiena di Jacopo. Ah, è vero, non abbiamo provato a vedere i nostri poteri. Yeah. Oh, geniale. Geniale. Yeah. Ho ancora le ali? Ah beh, OP. Sì, hai ancora le ali. Ok. Non hai segni di morsi. Non avete nessuno di voi le ferite che avevate il giorno prima. Anche mettere il massimo, anche punti fatica e punti psiche. What the fuck? Porco due, sicuramente siamo in un sogno di merda. Dopodiché tutti voi perdete un punto psiche per lo shock. Appena cancellato. Allora faccio così com'è. Però i punti fatica li recuperiamo tutti, quindi? Sì, tutti. Anche io tecnicamente che non ferita. Sono... Sì, tutto. Vabbè, per lo shock del Sanctuary, tu dici, sì. Vabbè, certo. E dentro il negozio c'è qualcuno? Cioè, l'unico che in teoria non dovrebbe perderli è Jump, che non ha capito ancora un cazzo, però capirà proprio. Il mio shock non capirà, cioè, cosa sta succedendo? No, Jump, quello è il tuo stato naturale. No, a parte i scherzi, io veramente non ho capito un cazzo. Già ho capito poco fuori dal gioco, immagina dentro cosa posso aver capito. Io posso fare solo un secondo io... Dentro al negozio cosa c'è? C'è tipo il tipo... Ok. Non c'è tipo lo stesso barista che c'era nel Sanctuary, però adesso c'è tipo il grembiule con la pittura sopra e... No, aiuta. Sarebbe figo, ma non è questa l'avventura che stai cercando. Ok, va bene. Dico al commesso, no, sarebbe sto solo guardando, che... poi... Poi esco e no, provo a continuare. Domanda, allora, io scrivo sul gruppo... anzi no, crea un altro gruppo ancora, oggi gruppi WhatsApp e ci metto solamente noi cinque, noi cinque che sappiamo del, diciamo, dell'universo alternativo di cui ci ricordiamo. Quindi è un gitano. Sì. Aspetta. Che bello, grazie. Chi è che non c'è? Non c'è Sala e non c'è Luca. Ma quindi neanche Salla si ricorda che esiste Sanctuary? Che Luca ieri stava giocando con lui a LOL e non è... Vabbè, ma magari del Sanctuary si ricorda. Non vorrei correre quel rischio. Vabbè, io lo scrivo. Io scrivo sul gruppo, quello dove siamo tutti. Aspetta. Gava, cosa scrivi? Io voglio scrivere sul gruppo dove ci sei te. Mm. Se ti ricordi di un posto chiamato Sanctuary. No, però è un bel nome per un bar. Ah, ok. Vabbè, lo riferisco ovviamente. Ok, dimmi, Jump. Io scrivo: senti, ma perché dopo aver letto questa cosa, allora, dopo aver... nel gruppo dove c'è pure tu, qua, ok, il gruppo dove sono admin, così. E scrivo: Luca, mi potresti fare una cortesia? Ti potresti buttare dalla finestra e vedere se hai la fortuna di salvarti? Che bella richiesta. Come sei? Dopo un po' ti arriva una risposta, tipo, haha. Io scrivo... Vabbè, tanto... Io scrivo nel gruppo privato che avevo fatto. Ok, da questo capisco che non ha capito... cioè che non ha, lui non sa di avere poteri. Io sono molto intuitivo. Sinceramente, anche se ce l'avessi, io mi sarei buttato dalla finestra. Ma lui non sa di averli. Ok. Perché io scrivo sul gruppo privato dove siamo solo noi, che sappiamo quello che è successo. Complicatissimo, ok. Cercavo di pensare cosa è successo. Potrebbe esserci qualcuno che ha alterato la realtà in qualche modo, tranne per noi cinque. Visto che Jacopo mi ha aggiunto al gruppo, scrivo su quel gruppo privato. Qualcosa non va, sto venendo da voi e poi mi dirigo a casa. Ah, non ci dice che non c'è più senso. Ve lo voglio dire a quattro occhi, non voglio dirlo sul gruppo. La sorpresa! A questo punto di gobbe, raga, non sto arrivando io. Non so quali sono le ipotesi. Per fare più anche il drammatico, no? Cioè, solo noi cinque siamo stati non alterati da questa cosa. Allora, io vado... Sara, ti posso chiedere una cosa? Io vado nel... Diciamo, io ho una piccola... Dentro l'armadio, un piccolo scaffale così, un po' nascosto. Dove ho messo la mia la pistola che avevo prelevato. Ci sta? Faccio... Sì, c'è. Quando c'ho gli oggetti io sono troppo. Quindi oggi, cioè, il calendario segna la giornata giusta, diciamo. Non è che tipo siamo al 17 febbraio. No, la giornata è giusta. Ah, un'altra cosa. Ricerco, vado online sulle news, perché ti avevo detto che io più o meno lo faccio spesso la mattina prima di quando mi alzo. E cerco se ci sono ancora, suppongo di sì, notizie tipo tra le cose dei locali. È stato ucciso un tipo al giardino di Margherita. Sì, c'è. Quindi c'è tutto così. Non ha modificato tutto quanto. Continuo a controllare perché sono pignolo. Controllo pure il mio portafoglio e vedo se ci sono tutti i miei 800 euro. Hai 800 euro nel portafoglio? Eh sì, perché c'erano 500 di partenza più 300 che avevo trovato da sì, ma non è, cioè, ok, vabbè. Va bene, hai 800 euro in contanti e portafoglio. Quelli che ce l'hai tu, ho capito. No, va bene, hai 800 se preferisci. Non okay, un conto o qualcosa. Era solo per fare la sottigliezza del totale. Va bene, ok. E niente, l'ultima cosa che faccio, perché voglio avere soddisfazione, perché mi piace far perdere tempo a tutto il team, prendo tipo una penna e dico giù mangi e vedo se riesco tipo a farla diventare una quattro colori da una no, prendo una matita e la faccio diventare una quattro colori. Sì. Ce la faccio? Sì, ce la fai. Ok, no, ho fatto questo così spero di non perdere punti fatica per fare una quattro colori, che cazzo. Ma in realtà dipende solo dalla durata, però vabbè, immagino che lo disattivi subito. Sì, fai no, giusto per vedere se c'è il potere. Vabbè, allora, convinto di avere pure i poteri, tutto gli averi ce l'ho. Mi dirigo verso la loro casa. Allora, altri vogliono fare qualcosa? Prima che Marco... Mi stavo dirigendo a casa loro. No, io rifletto solamente su cosa potrebbe essere stato di noi. Idem. Mettiamo la testa dentro alla dimensione di... Magari allora, Gianf e Marco, vi incrociate verso casa loro. Tiratemi su riflessi. Sì, no. Una macchina 5. Ok. 4. Ok. Siete sotto il portico e velocemente riuscite a evitare un barbone che vi sta finendo addosso. Come fanno a finire i barboni? Io di barboni a Bologna. Ok. Si volta verso di gli 800 euro. E fa una monetina, per favore. Luca, aspetta, Luca ci aveva raccontato di questa cosa. Di barbone. Il barbone. Non lo so. Beh, visto che oggi è una giornata strana, posso provare tipo a fare... tipo dare un'occhiata al barbone se mi dice sì. Si fare un tiro di investigare, diciamo. Sì. Tirami... sempre un D6, quindi sì. Cambia poco. 4. Allora, è vestito parecchio male, capelli lunghi, barba lunga e noti che nella mano con cui ti chiede una moneta ha un tatuaggio con una sorta di tribale che gli va un po' su dentro la manica. Un drago. Questo è un tizio che sembra anche in realtà abbastanza atletico, ma è un barbone. Vabbè, io cazzo, come sono i denti? So, perché il mio detective si sta risvegliando. Normali. Come sono? Normali. Sembrano ben curati, non sembra di uno che tipo viva per strada. No, non sembra di uno che viva per strada. Insospettito dalla cosa, dico, certo, tipo, prendo fuori un euro dal portafoglio e glielo metto in mano. Sospettito dal... Posso aiutarla in qualche modo? Grazie mille. E tipo, quando gli metto la moneta in mano, non lascio andare la presa per qualche secondo, guardo un attimo negli occhi come reagisce in qualche modo. E ti fissa. Amarevolmente. Io guardo avanti. È successo niente di strano oggi? No, perché me lo chiede? Allora intervengo io. Non si sa mai. Al giorno d'oggi tutto può succedere. È vero. Oh, si vede che c'ho il sociale. Si vede proprio. È vero, ci sono delle giornate in cui sembra quasi di essere in un sogno. Vedete la faccia che si rabbuia. E vedete che stacca la mano e ti cerca di dare un pugno con l'altro braccio. Cioè Cioè nel senso mi lascia la mano in mano praticamente. Ok, tutta la mano, solo la mano o tutto il braccio? Nel senso strappa via la mano dalla presa e ti dà un pugno in faccia. Cerca di darti un pugno in faccia. Perché l'avevo inteso come si stacca il braccio dalla spalla e mi lascia... Sì, per un attimo lo sai che l'ho pensato anch'io. Era una scena per quanto è anche divertente. Puoi schivare o parare? Mi sta dando un pugno? Non vedo niente, non vedo armi in mano? No. Allora provo a pararlo semplicemente col braccio destro. Ok. Arrivo. 5. Ok, riesci a parare e ti arrivano, segnati, 40 danni al braccio destro. Però. E fai una prova di fatica. Addirittura. Sì. Però ho 0 punti fatica. Sì. Quindi no, non la fai, l'hai superata. Era quello. Sì. Ok. Tirate iniziativa se volete. Io provo a socializzare. Socializzare l'iniziativa intanto. Ah, ok, io sì. Non volevo farci però. Sto tirando da Dio stasera, non ho fatto niente. Allora. Perché non cacciarlo? Vuoi cacciarlo o non cacciarlo? Non ho visto. Vorrei. Ho fatto 6 comunque. Ok, comincia, vai. Dimmi. Allora, poi metto la mano in tasca, la mano destra, dove, nel quale c'ho il coltellino mio tattico. Lo impugno. E... Ah sì, anch'io adesso vado in giro col manganello che almeno qualcosa. Prima di cacciarlo dico, aspetta, perché hai aggredito il mio amico? Beh, aspetta. Questa situazione si può parlare oppure cioè devo aspettare Fa... No, puoi parlare. In realtà non avrei dovuto, era solo per vedere quanto era forte. Ma quindi tu si merita un pugno. Ma quindi dovrei considerare come uno stile. Io faccio ti dovrei considerare come uno stile, caccio il coltellino, Jumanji e lo faccio diventare tipo un piccolo macete o qualcosa tipo una. Ok. Tocca a Marco. Okay. Allora, Il tipo sembra ancora in fare aggressivo o sembra più rilassato? Ma lui è molto calmo e rilassato in realtà. Cioè ti ha dato un pugno ma... È normale 40 danni di pugno? Sì, quanto è un D4, ho fatto 4. Ah ok, no, va bene. Vediamo di calmarci. Chi sei tu innanzitutto? Sono un barbone. L'ironia mi lascia letteralmente spiazzato in questo momento. Molta gratitudine per Disturno scioccato. È vero, sono un barbone. Ok, sì, io mi avvicino al campanello e tengo premuto il pulsante di casa Jacopo. Non lo mollo, lo tengo premuto finché non vengono giù a controllare. Ok. Allora, sentite quella, suonare e il campanello molto forte, tirate iniziativa. Con il campanello. 5. 6. 2. Ottimo. Ok, vedete che lui vi guarda ancora tranquillo, fa... carino. Punta il dito contro la tua ascia e fai una prova di controllo, Jump. Porca puttana, perché sempre quelli ho piglio? Bello il tuo, qualsiasi cosa sia. Che cazzo lo fa? Quindi onda? Vabbè, di sei, bruttibile quello che è. Sei! Sto male! Vedi che per un attimo il... Cosa hai fatto? Un coltellaccio. Sì, fa un macello. Vedi che per un attimo si ammoscia tipo palloncino e poi si ritira su. Ah! Ok, non me l'aspettavo questa. Ti aspettavi? Okay. Perché quando combatto mi viene così duro. Dopo di 4 ore contatto a medico. Ok, tocca a quelli che hanno fatto 6, i due che hanno fatto 6. Ok, e quindi da citofono si vede il barbone, immagino. Dal video, no, in realtà si vede Marco. Ma Marco cosa sta facendo? Cosa vediamo? Io mi sono messo questa scena. Marco praticamente è girato di spalle, io ho appoggiato il dito sul pulsante, non lo sto mollando. E io apro la porta e... Cioè no, prima prendo la cornetta, apro la porta e faccio... Cosa sta succedendo? Che succede? Beh, io non è il mio turno, quindi non posso rispondere. Ah, ok. Raggiungeteci giù se non è un problema. È cortese. Sono sempre cortese. Sono... Perché la gente è detto... Per favore, grazie. Ok, allora, esci di casa. Jump. Io riguardo il tipo faccio... Ma allora devo considerarti come uno stile? E stavolta però mi vedi tipo in azione... Beh sì, sono indubbiamente ostile, ma è sempre tranquillo, è tipo inespressivo lui. Davvero? Sì. Allora io... non me la fai fare due azioni, giusto, scusami. No, vabbè, allora... No, nel senso, io volevo tipo... Se io faccio tipo, che ne so, prendo il mio portafoglio e lo lancio e poi posso colpirlo, no? Perché già lanciare una cosa... Secondo me sì, puoi farlo, la difficoltà sarà molto alta però. Perché capito, nella serie distraiamolo... No, se però perdo tipo di difficoltà non conviene, sì, cioè sempre, esatto, che... aumenti così tanto la difficoltà che non ti conviene. Quindi attacco normale come le persone normali. Ok. Allora, io ho il coltello e ti dico... Proverà a schivare, ti dico già. Ti proverà a schivare, vabbè, ma non dottibile. Allora, io ho un... Il coltello dovrebbe fare un di 6, penso. Mm-hmm. Tu, potenziato, quando me lo fai fare? E tu intanto tira per colpire. Ah ok, quindi ci già sarà un becco, bruttibile. Come si fa a tiro per colpire? Un di 6, vero? Sì, è il tuo fisico. 5! Mi piace, stop, mi è proprio ottimo. Vedi che lui lo schiva proprio in scioltezza. Che stramina molto. Ah, in scioltezza poi? Sì. Ce lo vedo proprio leggiato? Sì, ti guarda, cioè non sorride neanche, ti guarda tipo inespressivo. Zip. Come se stessimo giocando, capito? Sì. Chi è che ha fatto 5? Ok, vai Edo. Vabbè, comincia a scendere. Ok. E 4 Marco, mi pare. Sì, 4, sono io. Visto che Gianfe mi sta andando addosso, provo a dargli mano forte, abbandono il campanello, che sembra non aver sentito, e prendo il manganello e provo a colpirlo anch'io. Vediamo se... Non credo proprio. E no, la reazione l'ha usata, non è che può usarne. Ho fatto 5. Colpito. Bravo! Devo fare il D8 prima, no? Per vedere in cosa l'ho colpito, giusto? Okay. Come sei OP? Ho fatto 2, mm-hmm. quindi dovrebbe essere il torso. E poi Manganello era un D6, però non mi hai detto il moltiplicatore. È sempre per 10, è la potenza. Ah, perché il fisico, sì, cambia solo il dado per... Quindi... ho fatto 20 danni. 20 danni. Ok. Poi mi metto anch'io tipo a fianco Gianfe sulla difensiva, diciamo. Per... Ok. Lui vi guarda, ancora inespressivo. E poi cerca di anzi no, se posso correggere un pochino, provo a mettermi anche un po' davanti a Gianfe per fargli da scudo. Okay. Gianf, cerca di darti un pugno. Un pugno? Sì. Lo schivo io. Tira. Sempre il D6, perché qua abbiamo solo quello. A meno che non ci mettiamo a parlare. Ti colpisce? 2. 7. Ci sto, ho fatto 3.000 volte. 7 cosa? 70? No, aspetta, 7 cos'è? 7 è la gamba destra. Quindi ti dà un calcione. Non ci serve, inutile. Ti dà un calcione sulla gamba destra e ti fa 20 danni. E stavolta perdi un punto fatica. Ah... Ma perché sei stato colpito? Marco, anche tu segnati un punto fatica. Ok, quindi non è una cosa normale, no? Le altre volte non ci capitava di perdere fatica quando arrivavamo. Okay. No, però ancora non è che ve ne siete accorti. Potete fare un tiro di o fisico o mente per vedere se ve ne siete accorti. Cambia poco. Perché no? Sento che questo dado ricomincerà a funzionare. 5! Visto. Fatto 1. Solo tu, Gian, ti sei accorto che è come se la gamba ti si fosse un po' più indebolita. Come se fosse un po' più stanca. Ma non tanto, leggermente. Ok. Frederick. Scendo giù con gli altri. Ok. Primi due. Gian e Jacopo, direi. Jacopo, arrivi all'ingresso e vedi questa scena, una sorta di tizio vestito veramente di merda, capelli lunghi e barba lunga, sta picchiando Jump, dandogli dei calci sulla gamba. E anche Marco è lì vicino con un manganello e Jump ha in mano un coltellaccio. Io trattengo le risate e... E mi avvicino cercando di tenerlo fermo, di come si dice, grapple, di fare grapple. Okay, non fai una prova di lotta. No, perché conoscete, ti pensavo che volessi tenere a me. Fai una prova di lotta. Allora, quanto è grande il tizio rispetto a me? Ma più o meno siete alti uguali. Porca troia. Cazzo, da quando me lo dici? Ve l'ho detto che era ben messo. Io ho fatto 2, vuol dire. Ok. Un bambino può essere palestrato. Riesci a aggrapparti per un attimo, ma senti che le mani, le braccia ti scivolano su di lui e lo lascia andare subito, perdi un punto fatica. Sembrava più erotico la scena. Sì, abbastanza. Già. Posso provare a... Cioè, vabbè, non devo dirlo, ok, scusa, vai. Dirlo cosa? No, volevo reagire se provo a colpire di nuovo. No, non devi dirlo. Già. Io faccio... Un leggero dolore alla mia gamba. E allora io, visto che non è ancora su... No, cioè, perché no? Che cazzo? Posso fare il trigger, qualcosa... Posticipo l'azione per avere due reazioni, ok? Cazzo. E parlo col tipo dicendogli... Cazzo, è un fire. Sì, sì, nel frattempo dico sempre... Sì, sì. Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Scusami. Edo. Arrivi anche tu alla porta. Devo capire questo secondo. No, ma potrebbe. Ma però mi caga. Vabbè, io arrivo giù sotto, immagino... Mi si presenta la stessa scena di Jacopo, immagino. Sì, tranne che c'è Jacopo tipo un po' sbilanciato in avanti che sta cercando di riprendere. Ok, osservo un attimo la scena e dico, ma che cazzo sta succedendo? Che state facendo? Basta. Deve rispondergli anche. Oh, no, basta che no, non no. sia una frase elaborata. Una mano qui per tre barbone presi. E no. Cioè, si stanno picchiando con un barbone? Sì. No, è il barbone che sta picchiando con i nostri soldi, con i nostri soldi, Marco. Sicuro. Allora gli chiedo, perché li stai attaccando? Cosa vuoi? Marco. Perché? Ti fissa, Edo. Ti fissa e basta. Ok. Cioè, prendo la cazzo. Allora sembra intenzionato a combattere, non si sta tipo arrendendo. No, nel lui senso... ha dato appena un calcione a Gian. Vorrei tipo dire, dico a Jacopo yes. penso che lui sappia qualcosa, no, meglio non, perché non... Jacopo, c'è qualcosa di strano, se riesci neutralizzalo. Sì, ci stavo, infatti stavo aspettando l'occasione. E poi dopo niente, provo a picchiarlo di nuovo col manganello, perché... vai. Fatto 6. Colpito. L'ho colpito al busto sempre. Mm-hmm. Lui ha provato a fare qualcosa? Cercare fatto di... 30 danni. Quando, solo quando attacco io, non fa. Reagisce. Ok. Tocca a lui che cerca di colpire uno di voi quattro. Giampe. Marco. Jump, tu avevi... vuoi fare qualcosa? Posso provare a mettermi fra lui e Marco e cos'è il... A metterti cosa? Che io mi guarisco, non metterti... No, per cercare di spegnere il potere. Vabbè, non devi mettere davanti, puoi farlo anche da dietro. Cioè, se mi tocca, nel senso... Vabbè, non è che dovete parlarvi. Tu puoi cercare di metterti in mezzo. E tu, Jump? Io invece... Cioè, posso provare a colpirlo? Puoi provare a colpirlo? Sì, puoi provare a contrattaccare. Ok, lo faccio. Tira. Tira. Mm-hmm. 5. Ok. Il resto di 20. Colpito. La domanda adesso è, come funziona, visto che io ci avrei un D6, penso, faccio il coltello. Potenziato. Prima mettere la locazione. Tira un D8. Scusami che sono ancora in auto per questo. No, mi manca. 5, che cos'è? Il braccio destro. Quello che fa le cose scorge. Ok. Tira i danni. No, oh, finalmente stiamo. Fa le cose scorge. 6! No, lo voglio far vedere perché voglio evitare che la gente pensa che fa barato. Non lo so, ma da male, all'inizio per fare le prove ho tirato 4 volte. Tira anche il dado controllo. Prova. Non ci credo, 6. Ok, vedi che gli tagli il braccio. Perché riesco a fare cose normali, o li ammazzo o ce le prendo. Non di nuovo, Giaffe, non di nuovo. Ah, non fa. Era il braccio destro anche quell'altro. Che andando avanti così, quando ammazzo non perdo punti. Sì, che posso fare senza problemi. Ma non stanno assumendo la Disney per il prossimo Star Wars? Far perdere più braccia. Che già. Bello, sono troppo felice. Sì, era il braccio destro anche quell'altro. Che pezzo di merda. Ok, Jacopo, ti metti in mezzo? Per spegnere qualcosa. Oh, sì, voglio spegnere. Ti colpisce? Ti colpisce con un calcio alla gamba sinistra e ti fa 40 danni. Io dico, Jacopo, no! Prendi un punto di fatica e fai una prova di fatica. Ma posso provare a spegnere il potere? No, perché la reazione ti consente solo di fare un movimento. E quello mi interessava. Vabbè. Okay, tocca a Frederick. Allora. Ah, aspetta, scusa, tira fisico. Che dai, è fisico. È improponibile, è improbabile che lo ha fatto. Ha fatto 4, ce l'ha fatta la prova di fatica. Sì. Gara, arrivi anche tu alla porta e vedi un tizio senza un braccio. Senza braccio. Dico, ma che cazzo? Ancora? Che cazzo succede? Non di nuovo. E vabbè, estraggo il pugnale, sì. Sì, dando per scontato che tu giri con un pugnale. Esatto, lui ti serve. Ma io ce l'avrei. Io te lo scelgo nella scheda. Adesso vediamo nella telecamera di Gava. Ma io ce l'ho. Ok, il pugnale poi? Bene, è un pugnale quello o sei contento di vederci? Diciamo. Niente, mi metto sull'attacco, tipo in posizione non offensiva. Vabbè, ma vedo sto qua che è già senza braccio, quindi immagino smetta di combattere. Lo attacchi o no? No, perché sono giù e cerco di capire la situazione. Ok, ci sta. C'è da capire. Jacopo e Gian. Io gli spiego il potere. Vai. Ci provi. Se glielo attivi ti giuro esplode e ti ammazzo, ti rimane un tiro di contro, no, non mi ricordo. Era un tiro di controllo, mi sembra. Di cosa? Non lo so, aspetta. Ti faccio beccare la testa, ma era bello. Sala, ti posso chiedere che mi puoi aggiungere un potere nel manuale? Cioè, ogni volta che spezzo un braccio guadagno tipo 10 punti di esperienza politica. Dai, passiamo. Controllo. Ho fatto 3. 3. Ok, lo tocchi. E tu puoi spegnere un potere a caso? Se non è a conoscenza, è a caso. Vabbè, penso di sì, se non è conoscente. Cioè, non posso... Cioè, ha più poteri questo tizio? Sì, perché il livello alto, pure noi, appena la serie mai la lista. Ma vuole senza un braccio? Comunque, vorrei farti vedere quanto spinto. Potrebbe giocarlo a romano. Che bello! No, aspetta. Ok, no, tira un D6. Tira un D6. Perché qua c'è pure il deck, no? Jacopo. Cosa? D6. Che matte, però. Che risoluzione c'hai? Ho tirato 3 di nuovo. Ok. Forse anche che risoluzione c'hai? Sa 1300 per... Vedete che... Pronto c'è. Per un attimo... Mm-hmm. No, anzi, il tizio da tizio barbone diventa una sorta di soldatino di sagoma, di non saprei come, una sorta di manichino nero pece. Che cazzo, che vuol dire? Tocca a Jump. Ma quindi dal braccio non esce sangue? Cioè... Ah, prendi un punto fatica, fammi una prova di fatica. Chi, io? Giusto, dal braccio esce sangue o? No. Ma che cazzo, che cosa cazzo è questo coso? Aspetta, ma mo che diventa il soldatino nero, gli ricresce il braccio? No. 2. Fai una prova di fatica. 2. Ha fallito. Hai 3, no? Sì. Allora, sei sotto stress. Wow. Questo vuol dire... Ah, e sei anche depresso perché hai attivato il potere. Esatto, sono anche più depresso del solito, diciamo. Non volevo, ma tu mi hai costretto, fai cattivo. Quali sono le condizioni? Ma porca troia, sto manuale è fatto a caso. Non ditelo a questo. Rip. Rega. E lo Rip. Di. Probabilmente devi tirare un altro dado, Jack. Ah, ecco, sotto shock, sotto stress. Stringere sul sempre ciclano. Ah, proprio preciso. Ah, ok, allora... la tua condizione ora è sotto stress e dice il bersaglio si trova in una condizione psicofisica al limite della sopportazione per cui ogni ulteriore shock o sforzo lo farà cadere in condizioni peggiori. Si trova in questa condizione, accumula un punto fatica per ogni azione o risposta che compie la cui D sia superiore alla media del dado che tira per compierla, quindi se fai qualcosa di difficoltà maggiore di 3 prendi un punto fatica, tipo un mirato o qualcosa di strano. Ok, quindi mi sento stressato, mi sento male in questo momento. Okay. Sì, sei stanco. Mi faccio un attimo da parte per il fiato. Vabbè, allora, tocca a me. Io ancora... Aspetta, scusami. Io, se me lo puoi dire tu, più o meno quanto tempo ho il potere? Cioè, perdo state un punto agendo fatica. Contemporaneamente, tu, Jacopo e Gianf. Sì, sì, no, chiedo per il mio potere. Siccome lo tengo sempre attivo, sto perdendo un punto fatica? Sì, sono onesti in questa. No, è solo il terzo turno. Al sesto turno perdi il punto fatica. Sono tipi allora, tutti tipi del proprio. Allora, sì, io lo guardi, faccio... Ma... Spero che almeno il braccio sinistro lo vuoi ancora, vero? Ok, mentre dici così, lui diventa appunto questo manichino nero. Ah. What? Io faccio... Devi spegnerli, potevi spegnerli tu. A quel punto se posso intervenire. Gianfe, per una volta uccidi sul serio. Perché nessuno crede in me. Io lo sento veramente questa cosa. Sono troppo esaltato, proprio con tutto il vigore lo colpisco. Ok, vedi che lui non si sposta neanche, è come se fosse immobile. Dopo che Jacopo l'ha toccato, dove colpisci tagli. E vedi che subito dopo vedete tutti che questo manichino si scioglie per terra, vedete una melma nera sotto che scompare, il terreno sotto di voi scompare e cadete, siete in un bosco. Sembra mia Jumpe! Perché sembrava una scena del tipo Jumpe, spacca. E poi il casino come al solito. Esatto. Siete in un bosco. Siamo nel bosco, però ancora tutte le cose... Siamo acciaccati e affaticati. È esattamente come eravate prima. Siete nelle stesse posizioni in cui eravate mentre... Riconosco il bosco, per esempio, da quell'incursione del giorno prima? 180 per 800. No. No. 1280. Punti di riferimento nel bosco? Hai qualche conoscenza che ti può aiutare? Io provo a ritirare... Conoscenze attualità, non so. Mi fai tirare per ricordare o per conoscere l'ambiente intorno? Non so cosa vuoi fare. No, io intendevo tipo di... Nel senso, vedo qualcosa dal bosco, cioè tipo qualcosa in lontananza, no, o sono solo alberi? Il bosco è molto fitto e le piante sono parecchio alte. Ora che ti guardi intorno e annusi un po' l'aria, senti che il clima è molto umido, caldo. Ok. Quindi non è proprio un tipico bosco del bolognese, no? No. E senti dei rumori di uccelli. E insetti. Ah. Siamo nell'upside down. Faccio un giro di controllo, chiedo a tutti se stanno bene, se ci sono. È notte o è giorno? Domanda cruciale. È giorno. Immaginavo, se no non si sarebbe visto neanche, cioè non vedevi un palmo dal naso, se no. No, esatto, però volevo chiedere lo stesso se... Ok, cosa ha detto quel tizio? Chiedo a Marco, che cazzo, cosa sto facendo? Allora, possiamo essere sicuri a questo punto di non essere più nel mondo reale, per così dire. Da quello che ha fatto intuire quel tizio, chiunque fosse, ha parlato di un sogno, quindi... Quindi forse siamo tipo in un sogno condiviso a Inception. Ci deve essere un qualche Eros, non so se dalla nostra parte o dalla parte del professore, che riesce a manipolare in qualche modo i nostri sogni. Io l'ultima cosa che ricordo è l'essere andato a dormire. Allora, io... È l'ultima cosa che ricordo. Prima sì. Potrei proporre di andare a... cioè, nel senso, potremmo provare a ucciderci, ma non sarebbe una cosa saggia, perché metti che tipo... Guarda, per me... Teniamolo come piano N, va bene, per il momento. Ah, proviamo a uccidere Giampe, magari... Lui si è un'ottima idea, Giampe. Cioè, che dobbiamo no, parlare un attimo. Io faccio raga, mi ricordo quello che ha ammazzato due persone. Sì, io non ne andrei troppo fiero. Non era proprio una persona. Non ne parlerei. Non era proprio una persona. L'alternativa potrebbe essere. No, non era una persona ed era anche praticamente già morto. L'alternativa potrebbe essere provare a svegliarsi o andare a dormire o provare a spegnere questo potere, però non so come fare sinceramente al momento. La cosa che mi sospettisce di più è come funziona il potere di questa tizia, cioè da come da giudicare dei nostri poteri sembra che no, tutti i poteri degli Heroes abbiano delle limitazioni, come è possibile che 5 persone in luoghi diversi siano sotto l'effetto dello stesso potere? È questo che mi sospettisce. Forse non siamo in posti diversi. Forse c'è un buco. Però se è successo ieri, mi chiedo quando possa essere accaduto il fatto scatenante. Che sia... Allora, o è quando diciamo ci stavamo noi, cioè eravamo noi insieme. Magari a questo punto direi senza Luca e senza Salla, quindi deve essere un momento in cui noi cinque eravamo insieme. Giusto, perché non c'è Luca qua? Non so perché, appunto potrebbe essere che c'è stato un momento nella giornata di ieri. No, sì, vai. È da gaming. Non lo so, magari c'è stato un momento, bravo. Nella giornata di oggi o di ieri che Luca non c'era, Sala non c'era, eravamo solo noi cinque. Esatto. O abbiamo tipo un buco di memoria che non ci ricordiamo. Perché l'unico momento che mi viene in mente era quando Luca se n'era andato. A dormire, dici? Eh? No, quando dici, a dormire o... A dormire, sì. E Federico e Edoardo stavano per andare al pronto soccorso. Non so se c'era un momento del genere, non me lo ricordo. Ed eravamo al Century, però. Eravamo al Century. Magari allora è qualcuno che tipo è con Salla. Non lo so. Non ho idea. Prima che arrivassi. Allora, prima che arrivassi. Basandoci su queste supposizioni, se eravamo al Century e supponendo che il Sanctuary sia ancora un luogo segreto, conosciuto solo a noi e ai fidati di Salla, potremmo pensare che questa non sia necessariamente un attacco del professore. Oppure è stato il barista. Il cattivo della campagna. Per cui, per il momento, vediamo come si evolve la situazione, ma siamo attenti, ma per ora non posso ancora affermare che siamo in completo pericolo o no. Mentre dici così, no, ok. Vabbè. Quindi ci sono, a questo punto mi guardo intorno, ci sono sentieri nel bosco, ci sono strade battute o no? Posso fare una cosa? Sì. Prendi il cellulare e vado su Google Maps. Non c'è rete. Ma che stiamo impossibile, c'è tipo. Nell'upside down non c'è Lime. Se vuole sponsorizzare questo podcast, è il benvenuto. Madonna. Non c'è rete. Allora, come lo devi dire? Ah, visto che c'ho il coso, attivo la bustola del telefono. Non funziona. Ottima idea. Upside down. È lì che ti volevo. E quindi allungando intorno. Vedo che la cosa gira a cazzo, interessante. Allora io comincio a guardare. Allora, ti metto che non c'è rete, giusto? Io provo. Ah, vabbè, non so, c'è ancora il coltellaccio gigante? C'è ancora il coltellaccio gigante. Se non l'hai disattivato, sì. Anzi, mettiti un po' di fatica, ti si disattiva. Sì, lo disattivo, cioè, nel senso. Infatti, te la volevo dire. Pensa un po', non sono diventato bravo. Chissà perché. Allora, non ci sono punti di riferimento, non ci sono... Ah, tu dici che non c'è questo. Sono persone, zombie, cose. No. Posso fare tipo una prova? Vabbè. Stavo per dire, volevo fare una prova di survival per vedere se c'erano tracce, orme o roba del genere, giusto per... Posso tirare anch'io? Sì. Oppure se perdete tempo lì a guardare, vi dico direttamente cosa trovate. Sì, vai, vai. Sì, ok, l'idea era quella. Ok, state un po' lì a tappicciare intorno e non trovate niente. Dopo una decina di minuti circa, sentite il rumore alla vostra destra. Vostra destra, però siete in posizioni diverse. Ok, in una direzione. Io provo a nascondermi dalla parte opposta nella fitta boscaglia. Ok. Ma che tipo di rumore? Un rumore come un fruscio che si fa come sempre più forte. Come se ci fosse qualche zombie? Ok, lo dico agli altri. Passa voce. Tipo, nascondiamoci, vediamo cosa succede. Nascondiamoci, va bene. Siamo tipo in uno spiazzo aperto nella foresta. In realtà no, cioè nel senso siete okay. In siete comunque tra gli alberi, sono abbastanza vicini okay, agli alberi. E ok, vi nascondete da qualche parte dietro gli alberi, un po' più lontano, oppure anche lì vicino. Dopo qualche secondo vedete una sorta di gazzella che corre verso di voi, una sorta di boh, non è proprio una gazzella, cervo. È fatta diverso, non è neanche un cervo, è un po' più... Descrivila. È tipo... Uno stambè. Sì, è tipo un cervo, ma molto come se fosse molto più grigio. Ok. Come quello del padrozzo? Sì, no, ma è proprio più grigio la pelle, comunque, vabbè. Grigia la pelle. Nel senso di cosa morta o tipo inverosimile? Metallico? È metallico? O... Un grigino tipo così. Ok, ma quindi non proprio naturale. No, non proprio naturale. Riesco a notare qualcosa del cervo in particolare, a parte il colore. Ma non è proprio, non ha le corna, è un po' più gazzelloso. No. Passa di proviamo a ammazzarla e continua. Dopo un po' ne arrivano altre due o tre e vi passano sempre di fianco. Vabbè, ammazziamole e vivisezioniamole. Certo. Ma cioè nel senso possiamo visto, cioè percepiamo se ci hanno visto, vogliono attaccarci oppure bastano. No, passano molto velocemente vicino a voi. Provare a seguirle più o meno, non cioè... Ok. Mentre ti giri per seguirle, fatemi tutti un tiro di iniziativa. No, di iniziativa, esatto. Porca miseria. Poi appare una sorta di enorme giaguaro. Che appena che sta correndo e appena vi vede si blocca e vi fissa. Ho fatto due comunque. Due, anch'io. Okay. 4 1 1 Vabbè, ha fatto 4. Top. Jump e il Gava 2. Ah, ok. Ok, cominciate tutti voi nel vostro ordine e poi tocca a lui. Io lo guardo e faccio addio, mi scappo. Vabbè, cioè mi dà è molto grosso. Definisci aspetta. Molto grosso, più di un cavallo? Sì, ti spiego meglio. Non è che mi giro e vado tipo Usain Bolt. Cerco di allontanarmi in modo graduale, con qualunque animale. Ah. Capito? Senza voltargli le spalle. Cioè, indietreggi, ok. Indietreggio. Di tutto il mio movimento possibile. Ok, fai un tiro di mente. Giusto. Uno schianti contro un albero fortissimo. Ci sto. Ok, e rimani lì bloccato. Gli altri cosa vanno? Uno, si può fare uno. Ma che è? Che fai? Io c'ho uno, quindi. Non è una creatura che ci sembra di conoscere più o meno nel senso. No, anche perché ripeto, è di questo colore. Senti una cosa, visto adesso io avrei la mia reazione da poter utilizzare, giusto? La reazione ti è rimasta, sì. Posso utilizzarla per cercare di, non lo so, rilassarti? No, come un attimo di rilassarmi, non so spiegartelo, tipo chiudere gli occhi e cercare di concentrarmi per capire se effettivamente mi trovo in un sogno oppure no. Cioè, riesco a uscire come faresti su D&D, che ne so, tirare per capire, cioè, se supera il tuo di no. Quando fai l'illusione... Cioè, sei chiaro come la morte? No, sì. Cosa vuoi fare? Voglio cercare di uscire dall'illusione. Cerco di capire se questa è un'illusione vera e propria, se io riesco a, non so, a scuotermi da qualche pizzicotto, cerco di concentrarmi, penso a qualcosa... Tira su mente. Sei! Ok. E il tuo cervello sa che questo non è reale. Però è reale. Nel senso che l'albero dietro di te lo senti come se fosse vero. Non riesci a distaccarti da questa cosa, però so è... Ma potrei morire. Vedi chiaramente che la roba davanti a te non è naturale, non è reale. È Inception. Sembra aggressiva la creatura, nel senso ci sta puntando come... Ok. Vabbè, Gianfe, buttati e fatti mangiare, casomai ti risvegli. A me a Gava, direi. Vai. Io dico agli altri... Forse mi sbaglio, sono completamente pazzo, ma io credo che questo sia una prova. E detto questo, mi frappongo tra la creatura e gli altri, più o meno, cioè nel senso mi metto... A tiro? Senti, fanculo, attacco la creatura, perché tanto... Grande, mi piace, vai, tira. Ce ne prendi. Anzi, tipo... Stavo per dire, va bene, no, ho detto attacco la creatura, va bene, va bene. Come vuoi. Ho fatto uno. L'hai mancata. Dai. Che bello, che bello. Vabbè, sto in corpo a corpo con la creatura e cerco di direzionare i suoi attacchi su di me, se proprio... Geniale, Frederick. Voglio dire, almeno io le cose mi ricrescono un po', quindi. Io sto in disparte e voglio vedere... Strano. Che fine fa Marx? Grazie. Grazie, fratello. Magari scompare da questo mondo perché si è risvegliato. Certo. E quindi morire è l'unica soluzione. Sì. Magari noi cambiamo solamente quando ci diamo la minaccia. Cioè, Federico. Geniale. Edo. No, chi stocca dopo? Sì, Edo. Io mi riposo, cioè schiudo gli occhi e cerco di pensare se sono ancora affaticato, se stressato. Che vuol dire? Tira su mente anche tu. Era una squadra. Però sincero, mi sento leggermente abbandonato. leggermente. Hai fatto? Sei. Stessa cosa di Jump. Il cucchiaio non è reale, per favore, la mia fatica non è reale. Purtroppo però, stai soffrendo come un cane lo stesso. Vabbè, non posso fare niente comunque. Tocca a Edo. Ho provato a diventare Super Saiyan. Cioè? Marco, sei morto. È un sogno. Sono più reale. Sì, poi senza attaccativo. Cosa, scusa? Sono preso un po' da una crisi isterica e vado ad attaccare il tipo. Bravo, vai. Con il manganello. Come se fosse troppo stupido. Perché? Ma io non ho idea che dopo devo dire. Se Edo può creare dimensioni, forse creando una dimensione potremmo riuscire a rintracciare, capito? Cioè, capito? O fai una dimensione di queste dimensioni. Sì, ma mi serve soltanto per capire se effettivamente di là possiamo. Perché là puoi guardare. Ed effettivamente. Tira, va? No, è sempre nuova, anche lì è una sacca. Sei. Almeno una vita. Non è come. Allora, poi devo tirare un D8. Cioè, non è quella sua dimensione, quindi quello utilizza come. Non è come che è morto. 5, quindi braccio destro. Vabbè, zampa destra. Quindi ogni volta che la utilizzo non è la stessa dimensione. Poi il manganello, di quelle Ma per magari cosa, un D6? Sì, un D6 per 10. Un D6, sì. 20. Ah, però. Ok, vedi che lui non accusa per niente, ma dove è colpito? Noti uno strano tatuaggio tribale. Nel senso che appare quando colpisce? No, o... è già lì e l'ha notato mentre colpisce. Tocca alla bestia che colpirà Edo perché l'ha colpito. Posso usare la mia reazione per frappormi tra... Sì, certo. Posso usare la mia reazione per frapporre, il mio manganello a... No, non puoi parlare. Vabbè, mi frappongo tra... Cioè, praticamente tu usi la reazione come movimento. Che non è proprio così, però secondo me ci sta. Vai. Vai. Ti colpisce. Ti colpisce. Fai il tuo peggio. Il busto. E ti fa... 145 danni. 10 danni. Tibile. Va bene. Tocca... Voi. Primo. Gianfè, non per dire, ma una mano ci farebbe comodo. Ah, ok, io a questo punto... Beh, se vuoi prendi quella del tizio che è ammazzato, Antonio. Cioè... Allora, io, in verità, voglio provare a fare una bella cosa che non piacerà a nessuno dei presenti. Ci sono dei sassi lì vicino? Sì. So già che vuol fare. Oh, come l'idea. Vado lì, prendo il mio coltello senza modificarlo e cerco di conficcarglielo tipo sulla testa. Tac. O no, a cazzo, attacco. Mirato alla testa. Vorrei fare i grapple se possibile col coltello. Cioè non fare solo tac. Non ho una cosa. Allora, il sasso cosa c'entra? Non c'entra niente, è stato un momento, è stato una sensazione. Deve essere brutto essere te. Più boh. Pensiero non lineare è fortissimo. Allora, prendi il coltello e gli fai un mirato alla testa? No, colpisco, però volevo chiederti, se nel colpire potevo ottenere, invece che fare il taglio, tac. No. Perché no? Perché ha una lama così e la sua testa è grande così. Non sei pignolo. Gianfè. Vabbè, e allora... Vabbè, le cose normali per una volta, cazzo. Attacco e basta, perché tanto non mi fai fare niente altro perché sei cattivo. E ti sei andato con la lemetta per le unghie contro un cazzo di elefante. Ma perché la mia idea era di conficcargliela e usare il mio potere, così... Ah, geniale proprio. Tra l'altro il tuo potere non lo puoi usare mentre... Vabbè, attacca. Dai, ormai l'ho detto che attaccavo. Allora, io provo a conficcarlo anche se non ce la faccio. Quindi prima tiro per colpire e faccio 3. E non l'hai colpito. No, l'hai colpito, vai. Che top, per un danno. Adesso fai un D8. Poi faccio il D8 ed è faccio 3. E l'hai colpito al busto? A busto. Magari ma se mi tiri 7, no, voglio... al giorno metto secure random di gioco qui. E indovina quanti di danno? 6. Quanto hai fatto? 60 danni? Sì. Vero. E tu ci scrivi. Metà. Va bene. Dice, non provo a toccare il danno. Va bene, non ti faccio scaricare il giornale. Vuol dire, sembra assorbire un effetto, quindi continua ad attaccare, che altro facciamo? Fatto 6 per colpire. Prova a schivare. No. Colpito. Yeah. Ho colpito 5, è il braccio destro. Sì. Faccio 60 danni al braccio destro. Urca. Siamo forti stasera. Ok. E vedi che stavolta ha accusato parecchio il colpo. No, più seriamente te. Tocca Edo in contemporanea. Anche tu vedi il tatuaggio. È lo stesso tatuaggio che aveva il barbone? Sì. più grande. Edo. Boh, non è che te ragiono tanto, cioè continuo a picchiarlo sperando che non mi ammazzi. Cioè. Ma la speranza non ti fa morire. Perché... Dove? Mancato. Okay. Jacopo? Io non vorrei rischiare di... O Gaba, Gaba. È quello che voglio. Gaba o Jacopo? Allora. Sono i contemporanei, hanno fatto uno entrambi. No, aspetta, io ho due. Io... Vai, Gaba. Allora, io... vabbè, vedo che lo stanno picchiando, quindi mi unisco alla rissa. E... È un sogno, ecco. Ho detto, tanto se è un sogno chi se ne frega se muoio, no? Giusto, corretto. Al massimo... Era quella la mia idea iniziale. Ok, ma volevo far rischiare solo te, tanto tu. Sicuri. Sì, infatti era per quello che sono il primo a gettarmi nella mischia, cioè. Non avessi allora il potere vado... rigenerante. Vado, cioè, col mio movimento mi avvicino e voglio attivare Mesmerism. Mi piace. Mi tira. Dai, credo in te. Devo tirare... Controllo. Ah. È un di 6, non è che cambia. Fatto 2. Niente, mi spiace. Però era una buona idea. Jacopo. Io provo ad avvicinarmi. Non capisco. Aspetta, io provo ad avvicinarmi e... Inizio a cantare, perché la musica calma gli animali per ora. Niente, mi suicido. Cioè, lo tocco e provo a spegnere un potere se sento un qualche potere. Cioè, mi ha dato controllo. E fece uno. E fece uno. Ouch. Ok. Sembra però che quando, quando attiva il potere, lui, quando fa l'uno e attiva il potere invece di disattivarlo, sempre per la durata del suo potere, non permanentemente. Sì, o fa scoprire. Sì, sì, sì. Ok, non fa scoprire i nuovi poteri, perché sennò dico, Jacopo, quindi mi addosso e cioè, mi faccio risvegliare poteri reconditi. Allora, in effetti mi hai fatto fare una roba difficile, non so se riuscirò a... Ma infatti c'è il tuo potere buono anche al contrario, perché seppur tu lo attivi, lo costringi ad attivarlo, quindi tutti gli effetti collaterali del suo potere, quindi fatica, bla bla bla, li attivi lo stesso. Cioè, se a me non fai attivato quello che ho detto tante volte, mi affatichi tanto e mi ammazzi, anche se tu stai morendo. Adesso ma non me l'aspettavo questa cosa. Ah, io volevo svenire. Non è stato. Non capisco perché ti puoi dire. Adesso abbiamo un orso che crea esplosioni. Ma provo a farlo sul computer, ma quando torno a casa. Ok. Qui la gente inizia ad andare a letto. Ok, scrive. Okay. Ma ancora continuiamo, perché... che ore sono? 22:40, sì. Anche una ma lui è a casa dai suoi, quindi okay, non può far troppo. Allora, tiratemi tutti, fate tutti una prova di psiche. È Jacopo che fa le... Prova di psiche si intende, era quella, devi aggiungere la tua psiche? Mente più psiche attuale, sì. Ok. Io ho fatto 8. Ok. 11. Ok. 11 anch'io. 9, Gaba. Ti sei più qualcosa? Io la tua psiche attuale. Sì, sì, non sei più privato, certo, la psiche. Mente più psiche. Sto male. 12. Ok, sentite tu. Impossibile, ne hai 5 di psiche, non dovevi aver perso un punto psiche. Ah, quelli attuali, non quelli miei normali? Cosa non lo sapevo. 11, non volevo perso. 5 è tanto. Sentite tutti come una fitta, tipo mal di testa, però è momentanea. E dopodiché la bestia prova ad attaccare. Mi frappongo. Ancora. Mi piace fare il martire. Bravo, fai il martire. Ti colpisce al 8, cos'è? Gamba sinistra. Grazie a te. Culo. Oh. Colpisce duro la bestia, colpisce duro. 10 danni. E... aspetta, è un D12 quello? No. Era un D12? Okay. È esponenziale, il prossimo sarà più forte. Cioè, volevo dire. Vai, tocca a... Jaff. It's my turn. E allora, mo, senza pietà... se attivo il potere posso colpire dopo? No, è la tua azione attivare il potere. Però potrei usare la reazione per contrattaccarlo, giusto? No, perché te ne servirebbero due. Prendo un punto fatica? Mm-hmm. Tu? No. Ok. E anche se ha riattivato il potere subito? Ah, bravo, sì, prendi un punto fatica, fai una prova fatica. Bravo, mi piace quando stai attento. Sempre attento. Mi piace quando gioco contro gli interessi. Non capisco perché. Vorrei dire, mi avete lasciato davanti alla bestia da solo per un turno intero. Falla, dimmi che muoio. Quanto hai fatto? Uno. E quanta fatica hai? Quattro. Beh, voglio svegliarmi nel mondo vero. Non c'è un boh, questo è il mondo vero. Okay. Vorresti dire che in realtà non esistono i poteri, tutto quello che avevamo prima era fittizio. Scusate, dicevo, il soggetto non può muoversi, ma può agire o rispondere. Non è possibile utilizzare un'azione per effettuare il movimento. Ok. Sei paralizzato. C'hai le gambe gigie, praticamente. Mi fanno già un giorno. Allora, stavolta toccava a me e lo colpisco. Allora, quindi tiro per colpire... ok, il D6, faccio 5. Colpito. Poi tiro il D8 per vedere dove, faccio 3 di nuovo. Cavo, busto, va bene. E adesso che devo farmi, che è colpa mia. D6 per i danni. D6 per colpire, 5. 50 danni. E tu, siamo forti stasera. Infatti sì, la bestia. Che si accascia al suolo. Ah, il coltellino svizzero continua a colpire. E comincia a brillare, luminoso. Fare sempre più luce, sempre più luce, fin quando dovete chiudere gli occhi, per non venire accecati. Per istinto chiudiamo gli occhi, come quando guardi il sole. Ok. E sentite un rumore come di onde. Lo sapevo. E sentite un urlo. Preparatevi sulla nave. Tutti pronti. Oddio. Aprite gli occhi e siete su una sorta di brigantino. Oh. Pieno di uomini che si muovono e mettono a posto, lavorano. Aspetta, ma ci troviamo sempre nel mondo odierno o tipo nave pirata, nave barra? Nave pirata, nave pirata. E si chiama Vento di Tramontane, c'è un minotauro. Non puoi leggere il nome della nave da dove sei. C'è un tizio blu che sta bevendo roba schifosa sul ponte in questo momento? Non ti pare. Però non ti pare, c'è un minotauro. Sono tutti uomini o? Sono tutti uomini, sì. Ok. Non siamo in D&D. Ci ignorano o si accorgono di noi? Sì, o... vi ignorano. Cioè, come se non vi danno ordini a voi, ma senti che si stanno dando degli ordini, tipo dai, muovetevi veloci, arriverà presto, muovetevi. Ma loro ci trattano come se noi fossimo lì, praticamente come ospiti, o comunque già danno per scontato che siamo parte... Come se foste passeggeri, cioè come se foste gente che è lì, ma... Ok, io vedo che Jacopo è abbastanza sconvolto un po', tipo... Sì, Jacopo è pallido e... Ok, cerco un attimo di farlo riprendere, non so... come? Cioè, nel senso, io... Se ho ancora la mia borsa con me, che di solito, con cui di solito vado in giro, è probabile che dentro ci tenessi il kit di pronto soccorso per che avevo preso il giorno prima, però non ho idea se nel conto, nel kit di pronto soccorso c'è qualcosa per aiutare. C'è tipo la siringa di adrenalina che gli pianto nel cuore. Non, non vendono le siringhe di adrenalina nei pronto soccorso. Ma posso mettere comprato. No, e dico a tutti di farsi intorno un attimo. Ascoltate, c'è qualcosa che accomuna queste cose che abbiamo incontrato. C'è uno strano tatuaggio tribale. L'aveva sia il barbone che questa bestia. State attenti. Se trovate qualcuno con il tatuaggio, avvertite gli altri. Ok, poi... Fate altro. Finito io. La nave è in porto o siamo in alto mare? No, siete in mare. Allora, io, per strani motivi, ricaccio sempre il mio telefono, per soddisfazione vedo se ce la rete. Gava, chiede a uno della ciurma cosa sta succedendo. Voi passeggeri, mettetevi al riparo, sta arrivando. Cosa sta arrivando? Sta arrivando, come non lo sapete, in questa zona del mare arriva sempre il mostro del vuoto. Ah, quel mostro, avevo pensato. Il mostro del vuoto, il mostro del suo vuoto, il vuoto fatto appositamente per il mostro. Il mostro è il suo vuoto. Mostro è il suo vuoto. Come si stanno preparando gli uomini? Tipo stanno armando dei cannoni, robe sì, del stanno genere? Armando dei cannoni e stanno sistemando le vele per andare il più veloce possibile. Allora io vado da uno di quello che insomma di quel guardiamastro, barra capitano, barra quello che vuoi, quello che sta dando ordine, così faccio. Scusate, ma forse potremmo essere d'aiuto, ci potresti dare una piccola Nessuno della ciurma l'ha mai visto. Però si dice che se si finisce in queste acque arriva sempre. Ah, ok, sì. Ok, ci sono armi che possono essere leggermente più utili di un manganello sul ponte che possiamo afferrare? E lo chiedi a qualcuno della ciurma? Do un'occhiata veloce in giro, se no chiedo sì a qualcuno se ci sono delle armi. Che potete prendere questi fucili se volete. Top, sto male. Voglio dire, meglio di niente. Figa. Ma sono fucili comunque d'epoca? Se quello è da spara... quelli con un solo colpo poi vanno ricaricati. Ah ok, non è tipo un M16? No. No, quello ci prova sempre. Ti prego, dimmi che lo posso trasformare in un M16. Puoi provare a trasformare in un M16. Sto malissimo. Cioè, in realtà diventerà semplicemente un fucile più nuovo, farà un po' più di danno. Io so tipo che durante, almeno durante le tempeste, i marinai si legavano alle corde di sicurezza della nave. Vedo che lo stanno facendo anche in questo momento. No, non è una tempesta. Ma metti che il mostro arrivi e cerchi di ribaltare la nave. Se tu lo chiedi, no, allora, quello non sta succedendo. Ok, perfetto, va bene. Se vedo che se non si assicurano i marinai, non ci assicuriamo neanche. Non mi assicuro neanche io. E non faccio assicurare niente. Non lo so perché l'ha scritto. Prendo il fucile e mi preparo. Su, sentite a un certo punto il capitano sul ponte, o meglio, sì. Uno vestito da capitano. Fa uomini. L'abbiamo visto, sta arrivando. Non ci faremo prendere. Siamo arrivati qua a causa di un temporale, ma arriveremo a destinazione, non vi preoccupate. Combattete con tutte le vostre forze. Evitate i tentacoli del vuoto. Mentre dice questo, esce un tentacolo viola dal mare. Afferra... Un tentacolo viola o un tentacolo del vuoto, però? Perché... Un tentacolo viola dal mare. Afferra uno della ciurma e lo tira giù. Non c'hai l'applicazione? Io faccio l'applicazione. Tirate iniziativa. Vai. Io posso svenire, Salda? L'iniziativa. Cosa? Posso svenire? Non volontariamente, cioè per definizione no. Ti sei la signora grassa con la collana in pelle. Oh! Tira un po' per me. Io 6. Io 5. Ti sei anche, no? Così dirò. 6. Gava... 6. Questo computer ama quest'altro. Sì, okay. Ho fatto 6. Gava ha fatto 6. Ok, la prima cosa che vedete sono tantissimi tentacoli che escono. dal mare e mi fate tutti un tiro su riflessi, difficoltà 5. Qualcuno mi ruba le scene comunque. Sì, fatta apposta. 2. Si può usare un punto psiche in questi casi per... Io? Ok. Allora, visto che hanno detto di evitare i tentacoli del vuoto, io cerco di evitare i tentacoli del vuoto. Bravo. E aggiungendo la mia psiche faccio appunto 6. Fai un tiro di psiche? Ah, anche un tiro di psiche, che è sempre mente più psiche attuale, giusto? 5. Ok. 8, 1, più 4. E tutti gli altri, Jacopo, quanto hai fatto? Di cosa? Di PES 5. Io l'ho fatta. Tu hai fatto, non so perché sono dove sta, posso fare tutto la mia? No, no, ti hai fatto 5, però io ho 3 hai fatto già. La tua barca ha fatto la lampada sua. Quanto hai fatto già? 3. Ok, tutti voi perdete un punto fatica. Tranne Marco. Era solo per un punto fatica. Ah, potevo evitare. Pensavo tipo ti risucchia l'anima e cose del genere. Chi ha più di un punto fatica faccia una prova di fatica. Maggiore uguale o maggiore? Che vuol dire? Io ho subito qualcosa per aver fallito la psiche. Al momento no. Okay. Io ho 2 punti fatica, che devo fare? Tira fisico. Ma sono così demotivato. 3. Ok. Jacopo? La mediocrità si dice sempre. Oh, fatica? 6. Forza. Jacopo si salva. E recupera istantaneamente. Ti devo facciare la lap dopo. No. Quanto hai fatto? No, perché mi sono capito qual è il problema. Del fatto che non mi compare più? Sì, perché ho usato dei numeri. Che cazzo state facendo? Ehi. Possiamo pensare alle interfacce utente magari dopo? Non ci cagano. Dopo devi mandare il sembra che non... Jacopo! Au. Vabbè, prenderanno punti esperienza in meno, non è che... Sorry, dimmi. Quanto avete fatto, Edo? Io ho fatto... Ma se no, ti volevo chiedere, cioè, nel senso, maggiore uguale di uno o maggiore solo? Maggiore. Posso cancellare? Ah, no, io ho fatto uno, sì. C'era uno di punto. Perfetto. Gava anche non ha fatto niente. Ok. Sì, però... E... tocca a voi. Io ho fatto... L'iniziativa quando ho fatto io uno, ormai. C'era qualcuno che ha fatto 6. Io ho fatto uno. C'era un paio di 6. Tipo Gava e Jump. Allora, se tocca a me... Ah, io devo fare la prova di fatica, scusami, anche se... Perché mi fa parlare? Nel frattempo, io vedo un corpo... Vedo solo tentacoli o c'è un corpo da cui spunta? Vedi solo tentacoli in questo momento. Sento un Luca Oldis. Allora io ti fucile, cioè puoi già sparargli. Ok, vabbè, io vabbè, la prova di fatica ho fatto 5, ho fatto come si fa? Ho fatto 5. Non ne frega niente, cosa fai nel tuo round? Io sparo la creatura, però ah no, non posso perché uso il mio potere. Vai. Anzi, non lo faccio, scusami, sparo. Potenza 5 per 10. Cos'è sta roba? Cioè 5 per colpire hai fatto. Cos'è cazzo stai facendo? Ho tirato un D6 e hai fatto 5. Ok. E colpito. E tira i danni. Scusa, ti devo dire quanti sono. Fucile. Tira un D8. Wow, per 1, 30 danni. Il tentacolo esplode. Sarebbe esploso comunque, in effetti. E vado 5 per colpire, poi devo fare il danni, ma esplode un altro tentacolo. Ne rimangono un 7. Dove mi facciamo il tentacolo? Perché nessuno ha un attacco ad area? In questo momento ci vorrebbe una fireball. Voi non avete nessuno che ha dei danni. Fa dei danni. Ma dai. Dopo di loro tocca? Ho fatto 5, quindi dovrebbe toccare a me. Faccio stessa cosa. Ho fatto 2. Ah, cazzo. Posso gettare via il fucile e tipo vedere se c'è qualche altro fucile appoggiato da qualche parte e correre per prenderlo? Un fucile già carico. C'è il 40% che ci sia un fucile appoggiato vicino a te. Ho sbagliato, aspetta. 98. Non c'è più un fucile. Anzi, hai un tentacolo di fronte così. Vabbè. Gli ultimi? Io corro da qualche marinaio per chiedergli di darmi un fucile, sono molto agitato. Ma tu hai un fucile, no? Io non l'avevo preso prima. Te l'hanno dato o non l'hai preso? Ah, me l'hanno dato a tutti quanti? Sì. Ah, ok, allora spara. Spara. Cinque. Buono, rimangono 6 tentacoli. Jacopo? Muore. Jacopo. Tiro per colpire. La prende? Ha fatto 3, se ho capito bene. 3 ha fatto? Ah, sì. Perché eri bloccato, madonna. No, ho sentito. No, tranquillo. E colpito 5. Ma dai, ma che merda, proprio io ho fatto la sfiga. Sì. Okay. 5 tentacoli, una testa, fate un tiro. Un tiro di cosa? Sempre riflessi. Cambia poco, ma giusto per saperlo. 4. Ho fatto 2. Ok. Quant'è la difficoltà? 5. Allora mi sa che Jacopo si prende un altro punto fatica. Quanto ha fatto Jacopo? No, non c'aveva la cosa che se aveva le difficoltà di 3 sì, o più. Giusto. Magari però ne prende 2 volte. Cosa hai fatto? 4, che è uguale. Grande. E Jump? Scusami. No. Di 6 ho fatto 3. Ok, prendete tutti un punto fatica tranne Jacopo che ne prende 2. Jacopo, 2 tiri. Ma io ho 3 punti fatica, che devo fare? Dovete tutti tirare. Io a posto. Ok. 1. Anche tu, Edo, sei sotto stress, quindi se fai delle azioni troppo complesse devi tirare su fisico. Se fai delle azioni troppo complesse con una difficoltà più alta della media, quindi più alta di 3, prendi un punto fatica. Ma Jacopo non può ancora muoversi? 5. Sì. Jacopo fatto può muoversi, ma può attaccare, ma adesso cosa ha fatto? 4. Col primo, il secondo? 4. Ok, il secondo... Hai un'altra condizione di stress, quindi sei paralizzato. E Jump, scusa? Io ho fatto 6, la prova di un tiro. Perfetto. Tocca a tutti voi, mancano 5 tentacoli che vi gironzolano intorno alla testa. Allora, io, visto che tu mi hai detto che quella non c'ha più la connessione alla mia pistola, giusto? No, hai sparato e finito. Hai sparato, quindi no. Ma mi dirigo che... No, la trasformi. Però, ecco, esatto, io lo volevo fare. Però, siccome tu sei molto attento a queste cose, dici, visto che non c'ho più munizioni, anche se tu la trasformi, rimane senza munizioni. Boh, no, secondo me ci sta che... Lo scoprirò in un'arma che tiene massimo tot munizioni, secondo me ci sta che abbia quelle mancanti. perché il rapporto 1-0 è fai diventare un fucile moderno che è semiautomatico e ha altre 6 munizioni. Quanti tentacoli ci sono adesso? 5. E noi quando siamo a sparare, no? 4, Jacopo è paralizzato. Solo io nel caso. Ma perché solo tu? Spariamo tutti. Non ci avete munizioni. E non ci abbiamo le munizioni. Potete ricaricare. Io perché volevo dirigermi verso Jacopo e prendi il suo fucile, però lo farete voi. E io trasformo la mia arma. Bravo, è lì che ti volevo. Perdi un punto fatica e fai una prova di fatica. Porco Dio. Che Sei cascato. Ho fatto 4. Grande, hai quanti fatica? 3. Vabbè, no, va bene, sei a posto. Che vuol dire? Devi fare di fai, cioè, se fai di meno di 3, prendi una condizione. Ah, simpatico questo gioco. Ah, mi piace. Ok, tocca agli altri. E Gava cosa fa? Perché anche lui ha fatto 6. Gava. Gava fa, chiama il piccione lì, come cazzo, il gufo. Carica il fucile? Ci sta. Sai come caricare un fucile? No, fai una prova. Armi. Di ma sì, l'avrei visto online. Ah, non c'è rete. Tira un di 6. Che devo fare? Tre. Ok. Per tutto il turno non ti puoi muovere per caricare il fucile. Gli altri? Io... Jacopo non ha sparato prima. O ha sparato? Sì, ha sparato. Anche colpito ha sparato, il tentacolo. Sì. I tentacoli sono vicino alla nave, nel senso sì. Di... Okay. È come se fossero intorno. Ok. Giusto per fare domanda. No, vabbè. Mollo il fucile, prendo il manganello e mi dirigo al primo tentacolo che vedo. E lo attacco. E lo attacco, sì, perché... Vai. Non c'ho... Vai giù. Signore, perché... fatto uno. Dai. Lo so. L'hai missato malissimo. Lo so. E rischi anche di cadere sotto, ma ti reggi. Vai, dopo di te. Tocca. Allora, io tento di ricaricare il fucile in maniera molto impacciata. E mi tiri un bel dado di 6, di mente. 1. Ce la fai. Non hai idea di come muoverti. Sbagliavo a prendere la spada con la salivo. Però paradossalmente ti puoi muovere. No, sono troppo concentrato a ricaricare il fucile e non capisco più niente di quello che mi sento intorno. Jacopo, sei completamente paralizzato. Che posso fare? Un cazzo. Puoi paralizzarti. Vi prego, aiutatemi. Non faccio un cazzo. Comunque questa cosa della fatica su sto gioco è terribile, perché se si può buttare dalla nave saltellando e buttandosi tipo a pera. No, perché non può neanche muoversi. Non posso fare un cazzo. Ok, tirate tutti destrezza tranne Jacopo, che prendi un altro punto fatica. Ma cioè 3. Anche Ed 4. Anche Gava. Anche Marco. E anche Jump. E fatemi tutti una bellissima prova. Siete tutti strematissimi. Quindi per 4. Grande. Ok, 4 a posto anch'io. No, io non posso superarla, ho 7. Però dipende da quanto fai di... 5. Ok, vieni. Alleluia. Ah. Però è giusto, però effettivamente quando ci colpiscono sentiamo solo fatica, non ci fanno del danno, non ci sentiamo male, dolore. No, non sentite dolore. Ma io, scusa una cosa, visto che ho fatto 4, adesso io perdo perché ho 4? No, va bene, 4 va bene. Sul gruppo di Facebook ho caricato una faccia di Nico. Ok, tocca a voi, tranne Jacopo che non c'è più. Che vuol dire? Sapevo, Nel senso che è scomparso? Nel senso che lo vediamo scomparire, ci giriamo e lo troviamo. Scompare. Okay. Ok, grazie. Forse dovremmo ucciderci. Cos'è sto dice roller? Te l'avevo detto cheat. Sì, ma magari è morto, cioè, cosa ne sai? Jacopo, puoi fare una scheda nuova? Mi sentite gridare Jacopo! Farò un altro Jacopo, con stile di lusso e perché. Fai Luca Oddis. Marco De Santis. Però, allora, eh? Che da me? Sì. Scusa, allora, visto che ci state, allora ti vorrei chiedere una cosa. Visto che c'è il fucile automatico, semi-automatico, no, anzi, mm-hmm. Lo decidi tu, giustamente. Invece che sparare precisamente al tentacolo, posso provare a fare grafica e darmi una percentuale per vedere quanti, se riesco a prendere più di un tentacolo? No, perché allora ci sono, è previsto che le armi possano sparare a raffica. Okay. Armi che effettivamente possono sparare a raffica. Il fucile è semiautomatico, quindi può caricare più colpi, ma non può sparare più colpi. E quello che potresti fare, però, probabilmente è provare a sparare a due diversi bersagli. Ok, cerco di massimizzare. Però ti aumenta la difficoltà, ovviamente. Giustamente, di uno. Esatto. Ah no, puoi farne anche più di due se vuoi. Puoi farne tanti quanti le tue munizioni, diciamo. Ho 5 munizioni? No, diciamo che ne puoi fare massimo 2, già sei 3. Va bene. Però dopo, però dopo la, la difficoltà è 6 già. Ci provo. Che non dirglielo. Non dirglielo. Che cosa vuol dirmi? Dimmelo. Ah sì sì, questo lo sapevo, è ovvio, ma almeno ci divertiamo. Duttibile. Allora, che devo fare? Devi fare 3 tiri diversi, quindi faccio 3 primo di 6 rollo 3 mancato, tiro il secondo 4 mancato, 6 colpito. Quindi per la via 1 era uguale. No, perché adesso ha meno proietti. Era diverso, era meglio. Comunque, volendo, avresti potuto sparare anche tipo 4 colpi o 5 colpi. Considera che così la difficoltà era 6. Non dovevi dire, però. Ti ho detto, ma tu aumenta, non mi specifichi. Ti ho detto, aumenta di uno per ogni bersaglio che provi a colpire. Vabbè, vabbè, anche con 4 non ce l'avrei fatta, quindi. Vabbè, abbiamo imparato una cosa nuova. Sì, vabbè, quindi ne ammazzo uno, esplode uno. Sì, bravo. Ok, hai 2 colpi ancora. Tocca a Gava, cosa fa? Spara al prossimo, spara. Scarica. Ah sì, sì. Devo aprire, ce l'ho scaricato. Non mi dici. Colpito, morto. Succia Gava è un spire. Comunque, per vostra informazione, in futuro anche, se vorrete fare un colpo mirato, potete scegliere la locazione che colpite. La difficoltà aumenta di 5, mi pare. Ah, ok. Sì, pari. Oh! Che però, scusa, con 5 non potremo mai colpire il... Potete usare un punto psiche. Quello, l'unico che usa un punto psiche. Vai. Vabbè. Tocca a me. Cosa Jacopo è scomparso, se no sarei andato a fare gli scudo col mio corpo per questo turno, ma non lo vedo più, quindi riprovo a colpire il tentacolo con il mio manganello, vediamo se faccio qualcosa. Sono in completa in modalità kamikaze in questo momento. Ma dai, è uno sempre. Ma non è possibile, e stavolta stavi quasi per cadere sotto. Edo, Per me sì, io tento ancora di ricaricare il fucile. Ok, hai salta la difficoltà è più bassa. Ah, ok, grazie. 2. non così bassa. Ok, Jacopo. Vabbè, diciamo che mi cade il fucile, dai, a sto punto. Niente. Jacopo purtroppo non c'è. Okay, no, Jacopo... devi dire dove sta, cosa vede? No. Tirate tutti i riflessi. Come tutti, non rimangono solo tre tentacoli? Ah, uno. Bravo! Tu sì che mi capisci. Lo so. Ok, quindi solo gli unici che non me l'ha ricordato. Gava, Gianfri... No, scusa, io sono davanti a uno, uno se devo essere io. Cazzo. No. Lo so che volevi, ma vabbè, ma ho detto sono in modalità kamikaze in questo. Io uno. Minchia, okay. Andiamo fortissimo, Io ho fatto 5. Oggi tocco, bro. Ok, perdete tutti tranne Jump un punto di fatica. Non stai malissimo, stai benissimo. Sto... Scusa, l'hai messo su Facebook? E fatto una prova di fatica. Scusa, i marinai sulla nave con le balestre e tutto quanto non sta facendo un cazzo? Che bello questo... Uno! I cannoni. Vabbè. Uno, e quanto hai di massimo, scusa? 4. Ok, sei paralizzato anche tu. E Gava, anche tu? E tocca a voi. Anche Gava è paralizzato? Sì. Quindi siamo io e Jump. Cioè possono usare l'azione, ma non possono usare l'azione di movimento nella risposta. Allora, ok, solo la prima condizione. Quindi possono fare la traduzione e usare l'azione. Allora, tocca a Jump e Gava. Marco, ti guardi intorno e nella nave non c'è nessuno. Siete solo voi contro i tentacoli. Ok, c'è qualche altra arma in giro per la nave? Sì, quindi... ci sono tante armi per terra. L'ho detto prima che cercavo un fucile. Prima cercavi un fucile. Va bene. Va bene. E tocca a Jump. 50% che l'arma sia carica comunque. Ok, va mai dato adesso tocca a Jump, quindi. Ah, ok, sì. E siccome a me non me ne è fottuto un cazzo, mi dico gli ultimi due proiettili faccio ta-ta, ta-ta. Tutte e due, sì, ci proviamo. Sono tre i tentacoli, ma fallo su due, ti prego. Due su tre faccio, così come ammazzi l'ultimo e la finiamo. Non ho capito, scusa. Ho due munizioni, hai detto. Sì. Giusto? Ah, sì, giusto, hai due munizioni, quindi fai due tentacoli, perfetto. Vai. Faccio due tentacoli, ora va lo spack, se no ci andiamo dove stavano tutti gli altri. Utile. Cioè, nell'aldilà. Allora, 5. Colpito. Colpito. Sto male. Ma 4 no. Mancato. 2. Gava, paralizzato. Allora, questo chiudiamo. Che fa? Non vediamo, ma c'è. Puoi usare l'azione, puoi provare a ricaricare se vuoi. Allora. Devo ricordare il protomodo. Protomodo, sì, sull'ultimo commesso, il secondo. No, no, ricarichi. Scusa, non dovevi tirare, perché hai già ricaricato prima. Io... io riesco, potrei riuscire a prendere un fucile e sparare nello stesso turno. Se il fucile è carico, sì. Perfetto, ho 50%, giusto? Devo fare meno di 50. Fatto 2. Non ho capito un cazzo. Metto su un fucile e mi metto su. Ha laggato mentre diceva quanto aveva fatto. Sparare. Ho fatto 2 col dicendo. Ok. Quindi rotolo, afferro un fucile al volo, mi metto in modalità cecchino e sparo. Vai. 6. Vai, ha battuto. Ne rimane uno solo. Edo. Io provo a ricaricare il fucile un altro volo. è bellissimo perché due turni più fa. Via. Tre. Riesci a ricaricare il fucile. E ora però mi fate un tiro sui riflessi. Allora, voi perdete automaticamente un punto fatica, e Gava Edo, e dovete fare un tiro di fatica. Scusa, rimane un tentacolo, colpirà uno solo, no? Bravo. Invece no, colpisce tutti voi. Adesso ho il gioco con quello. La tematica di base. Ricordavo che esiste. Quindi colpisce tutti noi o... Fatica? Sì. Ah, devo farlo anch'io quindi? Sì. Allora, 4 su 5. 4. Ok, quindi Edo ti colpisce, svieni e scompari. Già? Te lo dico io? Ti vorrei chiedere se è possibile. No, non lo faccio, queste stupidaggini. L'uno del potere, lascio l'arma. Ah no, aspetta, posso fare tutte queste cose? Fare un tiro di riflessi? Sì. Per essere... Perché sei colpito dal tentacolo, Gianfa. Ah, scusa, non avevo capito. Sai, ma visto che so che questo tentacolo ci sta, visto che sono due. No, quando ci sta uno solo o due? Uno solo, santo Dio, me l'ho handicappato, non posso provare. Ma su riflessi. Ma aspetta. Intanto io ho fallito la prova di fatica. Ho 4 punti fatica e ho fatto 1. Oh no! Fa schifo quel dato, non lo so più. È molto bene. Fai una prova di fatica, Gianf. Un attimo, non lo so più quel dato, fa schifo. Tutto l'attimo una volta. E devi frizzare tutto, tutte le volte. Forse lui, cioè... 4! Mi sto a posto. Allora, il tentacolo è rimasto un tentacolo solo. Aspetta. Quanti punti fatica hai? Ne avevi 4 al turno prima. Aspetta, perché ho aumentato? Sì. Ah, ok, allora no. Allora niente, perdo... Okay. Scusa, no, mi sono perso. Ma perché sto prendendo altro punto fatica? Perché che cazzo fa? Perché ti ha colpito il tentacolo. Il tentacolo, quello che fa, dà un colpo. A mo' di spazzata. Esatto, una spazzata su tutta la nave. Vi colpisce... tutti tranne Gava, che a quanto pare abbassa la testa. Vedete che Edo viene spinto contro l'albero e sviene e scompare. E il tentacolo torna in acqua. E siete rimasti sulla nave, stremati. Vuota la nave. Solo 4 punti fatiche. E non c'è nessun altro sulla nave, nessun... Io mi... posso muovermi ancora io? Sì. Okay. Vorrei... Io mi affretto a ferrare un altro fucile, metti che ritorni il tentacolo. Mi assicuro che sia carico, io. E sto in guardia. Esatto, ok. Gianf? Io... Che fanno loro? Stanno prendendo dei fucili e si stanno mettendo sull'attenti per il... L'ultima. Mi è sembrato che qualcuno dei tentacoli avesse qualche tatuaggio tribale, per caso. E non ci hai fatto caso. Ci ho pensato solo adesso. Allora, pure io prendo un fucile. Ah, il mio, vabbè, lo disattivo, disattivo il potere, bla bla bla. Okay. Prendo un fucile, vedo se è carico. È carico? Un fucile... Cerchi un fucile carico. Lo prendo. Ok. E mi metto. Ok. Allora. Io dico di venire tutti vicino e metterci schiena contro schiena. O tutti e tre o sopravviviamo tutti e tre. Ok. Ok, Jump. Siete tutti schiena contro schiena. Ci silenzio sta. Assoluto. Che si bello. Sfonda il legno della nave di fronte a te ed esce il tentacolo. Ti posso sparare di che sei handicappato. Spara. Mi autoreporto. Uno. Ma sicuro. Ma mi autoreporto lo stesso. Non ci credo. Tre, colpito. Colpito. Male. Allora. Vabbè, è finito. Il tentacolo esplode. Aveva un tatuaggio tribale questo. Aveva un tatuaggio tribale, sì. Sapevo. Era giusto per fare. Faccio, oddio, un tatuaggio tribale. Tutto il suo sangue ci piove addosso, ci copre la tosse e ci deve sportare da qualche altra parte, vero? Va bene, mi piace, sì. Ci può stare. Vedi, tipo che io mi tolgo gli occhiali, c'è la sagoma degli occhiali di non sforca. Ok. Vi alzate. Siete nel Sanctuary. Ah, non ci sarebbe più un cazzo in questa storia. Siete tutti e cinque. E di fronte a voi c'è un uomo che assomiglia al barbone, il primo barbone che avete incontrato. Però stavolta è vestito normalmente, non è vestito di merda. Ma ci siamo tutti? Siete tutti, sì. Ah, ok. Pure Oddis? Oddis è svenuto. Jacopo e Edo si stanno rialzando. Sì, sì, completamente. Sì, tutti. No, nel senso sono completamente stravaccati al suolo, svenuti dalla fatica. Ah, no, cioè è come se foste stati tutti al suolo e vi siete svegliati tutti insieme. Quindi come ci sentiamo fisicamente? Esatto, sentiamo ancora, allora, la fatica e i danni. Avete tutti i punti psiche che avete perso adesso e quelli che avevate perso prima. Se volete vi ridico quali avevate all'inizio della sessione. Cioè Io quando ce l'avevo di punti io avevo 5 punti psiche, quindi praticamente torniamo a quelli all'inizio della sessione. Sì, non avete recuperato niente. Quindi i danni che abbiamo ricevuto adesso e la fatica che abbiamo adesso si sommano a quelli che avevate prima. E quanta fatica c'avevo prima? Non mi ricordo. Prima avevi un punto fatica, no, due punti fatica. No, la fatica... no, aspetta. Ho detto la psiche e i danni. La fatica no. Ah, quindi la fatica prima. La fatica rimane quella di prima. L'unica cosa che si somma sono la psiche e i danni. Io di psiche quando c'avevo prima? Di psiche avevi perso un punto. Quindi, quindi adesso vado a 4 di quello attuale, giusto? Sì. Io sto a 5. No, rimane a 5. Io rimango a 5, prendo danni alla gamba. Ma non ho capito questo. Ah, no, però i punti fatica vanno a 0 o a 1, non mi ricordo quando ce l'avevo. Ne avevi uno. Io quanti ne avevo prima, Sala, non mi ricordo. 4? Sì. Io ne avevo 3, se ricordo bene, giusto? Meglio di 3, sì. I danni invece avevo 20, cioè avevo 20 salute alla testa, 100 al busto e poi? E basta. Ah, ok, posso. Allora, Gava scrive, Gava chiede conferma. 4 psiche, sì, e 2 in fatica. E di danni avevi 30 alla gamba destra e 60 danni al busto. Ok. Ragazzi, scaricate l'ultima versione che ho caricato lì su Facebook, non l'ho giocato più. Finiamo questa e poi... Beh, mancano ancora 40 minuti da a mezzanotte. Ah, io volevo chiuderla adesso. Cioè, adesso. In... Vabbè, in 20 proprio... minuti. No, no, va bene, va bene, va bene. No, niente, mi alzo e... Sto cercando una frase sagace, dammi un attimo. Vabbè, no, niente, mi rivolgo... Buongiorno signor Barbone. Con un tono un po' più serio di quello che mi dire adesso. Buonasera, visto che sono le 6. What? Cosa? Allora io alzo e vado dal barbone, gli metto le mani a fianco alle spalle così e gli faccio: che cazzo è successo? Che cazzo è successo? Lui è totalmente inespressivo. E non mi risponde? Ti guarda e dice: ok, intanto voi ci dovevamo conoscere stasera. Vi vedo un po' scombussolati, ma forse è solo colpa mia. No, non diciamo, sono stati giorni interessanti questi ultimi. Allora, è il 19 febbraio. Ok. Ah, quindi non è ancora lunedì, sì, è la domenica sera. Sì. E Tutto questo era per vedere le vostre capacità. Beh, spero si sia divertito. Sì, abbastanza. Mi hanno mandato per sorvegliarvi, sono il vostro nuovo badante. E Salla? Farò io da punto di riferimento e da, diciamo, coordinatore. Vorrei dire una frase tipo, secondo lei ci serve la babysitter? Poi guardo Gianfe e posso capirlo. Allora, avete superato la mia prova, quasi tutti. E devo dire che siete stati abbastanza bravi, niente di eccezionale, ho visto di meglio. Direi che per le prossime missioni, se avete domande da farmi, eccetera, potete parlare direttamente con me. E direi che da quello che ho visto, quello che dovrebbe coordinarvi può essere quel tizio là, e indica a te, Marco. Perché è il tizio che, insomma, si è sempre sacrificato per la squadra. E c'è un motivo. Alcuni di voi non sono riusciti bene a ancora a capire come utilizzare il proprio potenziale, ma vabbè. Se la prego, mi dica che ha un nome, che è un nome in codice, tipo il Corinzio o qualcosa del genere. Ci manca solo questo per... No, mi puoi chiamare Void. Giustamente. Il Corinzio, gli aprono gli occhi con i dentini. Mi è venuto in mente solo quello. Sono stanco, è tardi. È una volta. Quindi? Quindi io gli chiedo, più o meno mi tranquillizzo un po' e gli dico, quindi tutto questo era una prova? Sì. Ma tu chi sei comunque? Sono Void. E da oggi vi coordinerò. E perché tu? Perché vuoi coordinare noi? Beh, perché sono il più adatto, no? Vabbè, gli faccio ok, va bene, ho capito. Beh, ho più esperienza nel campo e conosco bene il professore, ho anche lavorato per lui. Ah, ma quindi sei cattivo? Ma domandina, io mi so chi è, cioè quando dice il nome Void, mi suona familiare, so qualcosa? Potresti saperlo. Ah, giusto, io ho ovvia attualità, mi dice qualcosa. Tira. Ha un D8? Sì. Ho fatto 8. Grande! Allora, in effetti, hai letto molto tempo fa. Qualcosa su... Boh, era più gossip, robe un po' così, esotiche, di gente che si svegliava e diceva di aver visto il vuoto. E sai che questa roba era tipo una roba tipo, è una bufala, ste minchiate qua. Tipo le scie chimiche? Sì. Invece noi abbiamo visto il Laoi. Sì, esatto. Il vuoto, i tentacoli, troppe coincidenze. Vabbè. Quindi avete altre domande su... avete altre informazioni? Diciamo che sono qua soprattutto per darvi risposte. Se avete le domande che non sono state risolte in queste ultime giornate. Ah, cose semplici, tipo chi è il professore, cosa vuole, cosa dobbiamo fare. Di domande ne avremo parecchie, ma è anche un'ora tarda e da quanto ho capito passeremo per tempo in adesso in poi. Sì, mi trovate qua. Grazie. Però sì, appunto, quindi... se avete qualche domanda su... Ho saputo che oggi avete visto cosa c'è a Monte Donato, per esempio. Io sapevo che Salla mi aveva mandato il file connettore Z, che però non sono ancora riuscito a leggere. Sì, ho scritto io quel file. Riguarda la vostra prossima missione. Il connettore Z è una droga che è emersa dopo i fatti di Ginevra. E dicono che possa risvegliare e sia legata a radiazioni Z, quindi possa risvegliare i poteri nelle persone. Purtroppo se ne fate uso troppo intensivo rischiate di diventare come quei poveracci che avete visto su a Monte Donato. Ah, ok. Quindi c'è un modo per salvare quelle persone o sono completamente perdute? Non c'è un Quindi modo. Immagino che la missione che abbiamo fatto ieri, cioè oggi? Oggi. Oggi. Era una missione di eliminazione. E no, non sapevamo, non eravamo sicuri, almeno io non ero sicuro che ci fossero di mezzo questi Zankis. Ma... possiamo immaginare però almeno quale sarà la nostra prossima. No, essere... la nostra prossima missione è diversa. Come? Essere morti o comunque feriti da quei cosi comporta tipo trasformazioni, effetti negativi oppure... Però spesso... non sono sicuro, non sono un medico, ma si dice che venire morsi possa iniettare, possa rilasciare alcune di questa droga, un po' di questa droga, di questo connettore Z. E quindi attenzione a non abusarne e non diventare dipendenti. Ok, grazie. Devo avermi di più. Cosa? Non ho ancora capito però in tutto questo. Noi chi siamo? Io stavo già pronto per la motosega dietro, ah? Penso... cos'è questa associazione che si sta mettendo contro il professore? Beh, è un modo per contrastare il professore. Abbiamo un nome? Una... voglio tanto un nome per l'associazione. Pensavo che chi fosse stato qui prima di noi l'avesse già scelto. Ah, ma voi siete i primi. Ah. E tutti... ah, ma quindi... quindi siamo gli Avengers? Sì, la prima squadra. Con il palco. C'è il tizio che apre le ali, ma in realtà è tipo il deltaplano, no? Beh, più o meno io comunque andando. Ma ok. Chi è? Cosa fa? Perché dobbiamo fermarlo? Dobbiamo cercare... il professore è capo di un'organizzazione che riunisce gli Heroes. E questo almeno ufficialmente, quindi gli fornisce protezione dal governo. Ufficiosamente però gestisce anche attività illecite e anche alcuni... ha avuto accesso di recente a alcuni piani che sarebbe meglio se non cadessero in mani sbagliate, tipo le sue. Quindi è un cattivone, diciamo. È già troppo tardi per quello allora. È troppo tardi, forse. Abbiamo le nostre informazioni dicono che abbiamo almeno 2-3 anni prima che riescano a sviluppare un'arma in grado di potenziare altre persone. Ah. Ok. Intendi già informarci? Devo dargli... no, gli do del lei. Per... intende già informarci adesso della nostra prossima missione o... no, potete riposarvi e quando sarete pronti ci vedremo qua. Domani o... quando volete, più presto possibile. Allora ancora un'ultima domanda. Sa che ore sono? Sono le 18. Allora penso di avere un appuntamento. Ah, e mi dirigo di nuovo ai giardini Margherita. Per ok, e possiamo finirla qua, direi. Allora vado anch'io e rifaccio la stessa cosa sull'albero, per la cronaca, se non ci sta. Ok, cioè vabbè. Cominciamo la prossima. Come abbiamo iniziato questa? Ricominciamo. Vabbè, io aspetterò lì che devo quasi svegli, poi vediamo. Dai, sperando che... figa, mi è piaciuta questa, è stata molto figa. Carina, sì. Intanto c'è Oddis che è ancora svenuto sul pavimento, magari. Sì, quella lampada che ha preso in testa. Ah, che forse però non ha preso in testa. Forse. Però è per terra la lampada. Oddio, magari è quello che ha guardato. Devo fare il tiro di osservare per la lampada. Non noto la lampada. Aspetta, mi do i pix. Okay. Allora, bravo. Sai che alma? Allora, Jamf prende 0. No! Vi do a tutti 8 punti esperienza. E a tutti ma è zero. Un punto abilità per il fucile. Ah, anche okay. Il manganello? E no. Top, io non ce ne avevo uno, quindi se arrivo a 8 prendo l'abilità di quel, di quel coso. Come, scusa? Anche se io non l'avevo mai usato il manganello prima. Ah, non l'avevi mai usato? Sì, allora sì. No, credevo di avertelo già dato la scorsa per... No, perché la volta scorsa non ho colpito nessuno. Hai usato sempre. Ok, sì, meglio. E basta, niente. Quindi tecnicamente già dalla prossima possiamo acquisire il potere. Non so quanti ne avete totali. Ah sì, forse lo so. Tranne, allora, tranne Gava e Jacopo, gli altri sì. Ah, è vero, adesso che abbiamo più di 20 punti siamo di livello 2 adesso. Siete, wow. Esatto, gli tranne Gava e Jacopo siete tutti di livello 2. Che bello. Vabbè, ma manca un punto esperienza. Infatti, potevi lascio. Dai, quella tua scorse... Quindi siamo a livello 2 e possiamo prendere un secondo potere. Bene, anche Luca tecnicamente è a livello 2. Vabbè. Potete prendere un potere un potere secondario, sì. Ok, oppure cioè, potenziare quello. In realtà la domanda che mi facevate... solo il potere secondario, perché te ne servono 30 per potenziare questo. Sì. Ma per qualsiasi potenziamento servono 30? Devi essere a livello 3 perché il tuo potere sia maggiore. Per gli altri potenziamenti invece c'è scritto nel potenziamento. Vabbè. Guardi nella tabellina che ti comunque, ho dato. Come dicevo, la discussione che c'era l'altro giorno sul potenziamento, eccetera. Fondamentalmente voi non è che prendete un nuovo potere. È come se il vostro potere attuale avesse una roba secondaria. Ah, ok. Quindi tecnicamente a me costa 19 perché è genetico. E... ci guardo. Intanto ciao a tutti, buona serata e chiudiamo la diretta. Buona serata a tutti. Ciao.